È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. L'Italia, l'Italia fede sta. Adesso c'è una frase che io cancellerei. Dell'elmo di Scipio se ci sta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che cadrà. Luca Telese, il collegamento da Roma, l'inno italiano cantato da Cossiga. Voglio iniziare sempre così la trasmissione, caro Luca. Diventerà un cult e faremo anche l'alza bandiera. Ma hai visto, hai sentito, anzi che visto, che dico, hai sentito Cossiga che canta l'inno italiano, una cosa fantastica. Sì, perché voleva togliere la frase sull'elmo di Scipio? Io sono molto affascinato. Chissà, magari non gli piaceva, chissà per qualche motivo storico. In collegamento da Montenero di Bisaccia, Antonio Di Pietro, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Saluti anche Telese che è in collegamento dal Fatto, e da Roma. No, Telese, buonasera. Viva Montenero! Senta, Di Pietro, ma avete fatto una grande festa. Una volta nella vita bisogna venirla a vedere, Montenero. Dobbiamo andare insieme, Luca, io da solo non ci vado. Di Montenero! Se no Di Pietro mi fa prigioniero se vado a Montenegro, con tutte le cose che gli ho detto mi tiene là tutta la vita, poi non mi fa ma uscire. Noi non ci ha invitato Di Pietro, Giuseppe. Come? Ha invitato 1000 persone e noi non eravamo nella scelta delle prime 1000 persone che ha invitato. Perché dove? Io non faccio inviti, la porta è aperta e chi vuole viene. Ma quante persone sono c'erano a Ferragosto? Quante persone c'erano? E chi le ha contate? Chi voleva veniva e la porta era aperta e ogni anno è aperta di più. Quindi, a proposito, quando c'è qualcuno che va via vuol dire che due ne arrivano. Sì, in che senso, mi scusi? Nel senso che nella politica c'è sempre qualcuno che tradisce, ma due che arrivano. Ah, e chi si riferisce in questo caso? Non mi ricordo. Chissà. Senta, ma è vero che si è slogato una caviglia? Ecco perché è un po' abbacchiato oggi Di Pietro, stamattina. No, ma non sono assolutamente abbacchiato, perché è vero che ero invidioso di Fini che si è fatto male al piede destro, allora io mi sono fatto male al piede sinistro, no? Ma ha comprato anche una maledizione. Cucina, Di Pietro? Ha comprato anche una cucina? Ha comprato anche una Scavolini? No, non c'ho il cognato, io non c'ho il cognato giusto. Però c'ha il figlio. No, ma c'ho pure il cognato, se per qui. È esigente anche lui? Sta contento. Telese, ricordami un po' chi è il cognato di Pietro, come si chiama? Gabriele Cimadoro. Cimadoro. Che faceva politica prima di lui, questa è la cosa divertente. Senta, ma non è... È Di Pietro il cognato di Cimadoro. Davvero. Ma dunque non è che come il cognato di Fini, no, non è così esigente, non vuole macchine, cose. No, ma sai, io, su questa storia del cognato di Fini, siccome non so nulla, aspetto di capire esattamente come stanno le cose. Senta, voglio farvi ascoltare, sempre a Di Pietro in collegamento da Montenegro di Bisaccia e Luca Telese in collegamento da Roma dal Fatto Quotidiano. Insomma, le ultime cose, brevissimamente, sulla vicenda Fini. Tullianos, come ha scritto Panorama, i Tullianos, era bellissimo quel titolo, sentiamo. L'era mai successo una catrua un sesso messo un cagato a Monte Carlo. Nuovo scontro tra Fini e Il Giornale sulla vicenda della casa di Monte Carlo. Secondo il quotidiano diretto da Feltri, un testimone confermerebbe la presenza di Fini e della Tugliani a Monte Carlo nel dicembre scorso, in prossimità delle festività natalizie. tutte falsità, replica Fabrizio Alfano, il portavoce del Presidente della Camera. Un semplice accertamento. Insomma, si andrà a finire in tribunale, se non avete capito male. Di Pietro, ma... E però hanno toppato, eh. Perché? Hanno toppato. Su che cosa? Alfano dice, guardate i movimenti della scorta, evidentemente... Beh, Feltri ha risposto dicendo, si può andare... Ho capito, Feltri ha risposto, si può andare a Monte Carlo anche senza scorta. Ma è difficile che il Presidente della Camera si muova senza scorta. Dici, dici. Almeno lo accompagnano all'aeroporto. Senta Di Pietro, Paolo Berlusconi, quanti soldi le ha dato a lei? Tanto per essere chiari. Grazie a Dio, ogni anno qualche diffamazione la paga. Ma in tutto, ha fatto un calcolo, no? Non ho fatto un calcolo, sinceramente, perché ci sono alcuni risarcimenti danni che sono ancora in corso, nel senso che si aspetta la sentenza passata in giudicato, ma non è tanto il problema dei risarcimenti, il problema è io dei soldi ne farei volentieri a meno, vorrei non essere offeso sul piano personale con falsità atroce. Parlando un attimo sul serio, guarda, io credo che un politico può essere e deve essere criticato in ogni modo. Se a me si dice, per intendersi, Di Pietro non sai parlare italiano, vero o falso che sia, è anche vero, è una critica e me la devo tenere, ma se mi dicono non ti sei laureato, mi arrabbio perché mi sono fatto un mazzo così per apprendere la laurea. Allora il fatto deve essere vero, la critica te la devi prendere. Allora il concetto di fondo per la vicenda di Fini qual è? Perché lei pochi giorni fa, Di Pietro, mi scusi, pochi giorni fa ha detto se non spiega è finito. Ma per forza, perché vedete qual è il concetto? A me ogni volta che mi attaccano cosa faccio io? Metto nero su bianco, vado dal giudice per sulla questione, il fatto così com'è nella realtà dei fatti. E in secondo luogo spiego immediatamente come stanno le cose. Adesso che Fini non sapesse. Dall'inizio chi fosse il proprietario della casa ci posso pure credere, ma non è che non lo sa adesso. La prima cosa che avrà fatto quando ha visto lo scoop del giornale, avrà preso il telefono e ha chiamato al cognato e gli ha detto: uè, a chi l'hai venduto e chi te l'ha dato? Quindi sa nome e cognome. È inutile che dici quindi è tutto falso, deve dire è tutto falso, virgola, perché il giorno tot, alle ore tot, il signor tot, che non è uno delle de Barbados, di dove cavolo sta lì quell'isola. Sì, ho capito, insomma, sì. È un italianissimo dell'Italia, perché quello dall'altro mondo non va a comprarsi la casa. Cioè lei, secondo lei dietro queste sigle c'è un nome italiano, insomma, italianissimo. Beh, insomma, Luca, questo non è male. Però voglio fare sicuramente adesso, ripeto, non voglio discutere prima, ma adesso è un po' come la storia di Scaiola. Dice: non so chi mi ha pagato la casa. A parte il fatto che ci vuole essere diciamo così boccaloni a crederci, ma fessacchioni proprio no, perché adesso l'avrai chiesto chi mi ha pagato la casa, no? Dunque così. Di Pietro vuole dire sostanzialmente che al di là delle vicende dei mobili, al di là delle vicende recenti di chi ha visto Fini dove, quando, a Capodanno e alcuni mesi fa, ancora Fini deve dare delle spiegazioni convincenti, no? Telesia, Di Pietro, ho sì, tradotto. Deve dire semplicemente: la casa l'ho venduta al signor Giovanni. Punto. E dopo, se no, guardate, un politico, non, il segreto dei politici sono segreti di Pulcinella. La prima cosa da fare è dire le cose come stanno. Se poi ha preso una chiavica, dice: vabbè, ho fatto la pipì fuori dal vaso. Ma chi vince questa storia in giudizio, secondo lei? Il giornale o Fini? Chi la vince in giudizio questa storia? Come che lei è esperto di causa? Sul fatto, mi lascia molto più passo. Ogni giorno che passa di più si assottiglia la possibilità per Fini di vincere la causa, perché io quando ho detto la prima cosa che devi fare è carta canta, smentire quel che dici che hanno detto le bugie, naturalmente deve avere ragione, cioè la causa intanto la fai in quanto hai ragione, se no è un boomerang, non so se mi certo spiego. Ho capito, Luca. No, ma tutto quello che dice Di Pietro mi sembra giusto, però vorrei fare anche un lodo, anzi criticherò la Zanzara. Perché? Dobbiamo fare una sigletta anche per i Verdini di Verdone, anzi i Verdoni di Verdini. Ma lì è una storia complessa, Teresa, è una storia complessa, no, quella 60 milioni di euro. Quella è una storia è carta canta, cioè non confondiamo. No, confondiamo Di Pietro, la storia di Verdini. Chi è 60 milioni di euro di Verdini? Sì, d'accordo, mi interessano anche a me i 60 milioni di Verdini, ma è una storia complicata, bisogna spiegare alla Banca d'Italia le relazioni di Verdini con i suoi clienti, una storia complicatissima. Qui invece... ai suoi soci. Ma voi ve ne occupate ogni giorno, infatti, al Fatto Quotidiano qui sì, voglio dire Fini, se ha in imparato a vendere o a comprare le case dalle società offshore, forse ci aveva un consigliere della Madonna quando ha fatto il PDL, perché se ce n'è uno che usa queste società e questo modo di fare gli affari è proprio Berlusconi. Traffico, torno subito di dietro, torno subito. Come va la caviglia intanto? Come va oggi? Ma la caviglia veramente va bene. Io ho letto questa agenzia, sono andato, effettivamente è vero, lavorando in campagna, non avendoci più la mano, ogni due che ne fai ti butti una cosa sul piede. Ah, non avendoci la mano, nel senso non avendo l'abitudine, insomma. Non hai capito, in questo senso. Dopodiché, per l'amore di Dio, sono andato a farmi fare un controllino e mi ha detto quello che vai a lavorare, va. Cioè non era niente, non era niente. No, niente. Voleva copiare Fini, come ha detto Telesi. Ma io ho preso il piede sinistro e lui il piede destro, come giusto che sia. Eccoci in collegamento con Montenero di Bisaccia, Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori. Vogliamo far dire qualcosa di nuovo a Di Pietro. Senta, io qualche giorno fa ho letto, suo figlio Cristiano, che ha detto: mio padre potrebbe candidarsi alla presidenza della regione Molise. Ma c'è qualcosa di vero oppure una cosa che ha detto suo figlio così? No, lui ha detto, magari si candidasse mio padre alla regione Molise, guardando al fatto che in regione Molise c'è un centrodestra da una parte e non c'è niente dall'altra parte. Allora chiedevano a me di candidarmi, ma diciamo, parlando seriamente, voglio dire. Ma lei si candiderebbe o no? Faccio un partito, ho un partito, l'Italia dei Valori, sì, con cui sto cercando di costruire una coalizione per propormi e per proporre una coalizione in alternativa al centrodestra di Berlusconi. O faccio una cosa o faccio un'altra. Quelli che fanno 10 cose, alla fine fanno tutto male e niente bene. Quindi per esempio Vendola fa troppe cose? Ma Vendola farebbe bene, non fa bene, farebbe bene, hai preso proprio dove mi sfrugusi, certo. Vendola, l'abbiamo aiutato a vincere e ha vinto alle elezioni regionali di qualche mese fa. Aveva governato i primi 5 anni e si è fatto prendere in giro da qualcuno, di qualche assessore di troppo che ci mangiava sopra. Adesso sta governando bene, noi vogliamo che lui continui a fare il governatore come si deve. Se lui si vuole candidare in una coalizione, io non sono contrario a nessuno. Resta il fatto però che, benedetto il Signore, ti sei appena candidato, perché devi fare il governatore per 5 anni della Puglia? Ma insomma, pensi a te o pensa a quegli elettori che ti hanno eletto per fare quel che hai detto che volevi fare? La dico grossa qui, caro Telese, ha ragione Di Pietro, tu sei un vendoliano, lo sa Di Pietro che Luca è vendoliano, no? Com'è me vendoliano Telese? È vendoliano Telese, ha ragione Di Pietro, perché uno si deve proporre? Io non sono né vendoliano né Di Pietrista. Stiamo scherzando, però è vero, uno si è candidato per la seconda volta a fare il governatore della Regione Puglia, c'è stato tutto un casino, eccetera, dopodiché si presenta come leader nazionale e pensa a governare la Puglia, no? Ma veramente un'obiezione. In Francia tutti i grandi leader sono stati sindaco di Parigi, quando era il momento, se dovevano correre per le politiche si dimettevano. Beh no, sindaco di Parigi è un'altra cosa, su, dai Luca, questa non va bene, questa non va bene, dai. Puglia. Sì. Capisco che se Parigi avesse Lumiere sarebbe una piccola bere, però... Di Pietro, respingiamo l'obiezione, questa non è un'obiezione seria. No, ma poi io si è attaccato alle spoglie. Ma lo candida De Magistris o no, Di Pietro? A dove? Dove De Magistris? Alle primarie. Alle primarie. Ma se ti vuole candidare, guarda, le primarie sono fatte apposta per capire chi arriva secondario. Ho capito, ma se si candida lei l'appoggio o no? Ma certo che l'appoggio, dell'Italia Valori ci mancherebbe altro. Vabbè, voglio dire, le piace l'idea che si candidi De Magistris alle primarie? Ah, guarda, assolutamente sì, come mi piace che se ci sono delle primarie siano primarie veri, che ci siano plurimi candidati veri, e se si vuole candidare De Magistris mi fa strapiacere. Non mi pare entusiasta, Telese. Allora, no, che devo fare? Devo candidare voglio dire, sono stracontento che si candida Magistris, perché se si candida, il problema di fondo è che si fanno le primarie o no, perché qui tutti si candidano alle primarie, ma l'avete chiesto, è un po' come dire, tutti vogliono uscire la sera con una bella donna, ma l'avete chiesto a lei, chiesto al PD se ne può fare. Il fatto quotidiano sta facendo una battaglia, Il Fatto sta facendo una battaglia per fare le primarie subito, secondo me c'ha ragione in questo caso. Lo ma dico io personalmente, torno a ripetere, io sono favorevole, così come sono favorevole che si candida Vendola, che si candida Magistris, che si candida Vendola non troppo, lei non è troppo contro. Io personalmente, se male, si candida Vendola alle primarie, si candida De Magistris alle primarie, io appoggio De Magistris, che ragionamenti sono? Vabbè. Certo. Però volevo chiedere una cosa prima, forse quando c'è la strada si è persa. Avevo letto che quando Fini si era slogato la caviglia, era andato a pronto soccorso e era saltato tutta la fila per motivi, non so se di sicurezza. Bravo, sì. Allora, volevo chiedere a Di Pietro, ma sia sincero, se lei la fila l'ha fatta. Io sono andato a pronto soccorso con la mia macchinetta. a dire la verità, ma poi, poi domandare a quelli del pronto soccorso se non ho fatto. Ma non vita. C'era nessuno a Montanero di Bisaccia, eh? Non c'era nessuno, Telese. Quella... No, no, qualcuno c'era, a dire la verità c'era qualcuno, c'era un paio di ragazzi che avevano mangiato le cose crude. Mi dica la verità, ha fatto la fila, ha fatto la fila o no? Sì, sì, assolutamente sì, ma c'erano due ragazzi che avevano mangiato le cose crude e quindi voglio dire c'avevano mal di panza, eh. Solo quei due. Poi c'era un signore che gli faceva male il costato, pensava chissà che cose, anche lui evidentemente aveva fatto una buffata che non andava bene. Deve stare in mezzo al popolo! Vabbè, senti, di Pietro, ma sento... Ci devo riandare domani mattina, ci devo riandare. E perché ci devi riandare? Dice che non era niente. Mi devo fare la lastra, insomma, a proposito di guida. A proposito di guida, mi devo fare la lastra. Potrebbe mandare qualcuno. Come? A controllare. Domani mando qualcuno. Ma guarda, già il fatto che ci devo riandare domani vuol dire che non l'ho fatto oggi, scusa, Senta, ma non è che sei... Questo rumore che sento non è un trattore? È un trattore, sì, è un trattore. Ah, il trattore, sentivo un rumore di sottofondo. No, sono qui in campagna, abbiamo cominciato ad arare. Eh? E allora abbiamo cominciato ad arare, sai che mi sono fatto il trattore nuovo, no? L'anno scorso. Quanto l'ha pagato questo trattore? Mi hanno fatto tanto di fattura fino all'ultimo minuto, 30.000 euro. 30.000 euro per un trattore? Costa una cosa. No, ho preso il trattore. Costa più di una croma. Sì, a proposito, davvero. 30.000 euro il trattore, mi sono preso l'aratro e il, come si dice, la... Sono otto cucine a scavolini, è pazzesco, tanto di fattura, amico mio. 30.000 euro per un trattore, una cosa. Io non penso. Ma non così tanto, o è un trattore particolare? Ma è un trattore. Telese chiede. Abbiamo cominciato adesso a sistemare. Telese chiede se è un trattore particolare. No, no, italiano, questo per forza. Lei fa le vacanze a Montenero, non come la Brambilla che dice di fare le vacanze, di promuovere le vacanze in Italia e poi se ne va in Francia, no? Ah, così ha fatto? Pare di sì. L'ho vista là a Cannes, non so dove, vicino, sulla Costa Azzurra. Qui dove sto io ci stanno un sacco di canne. Come di canne? Ma di canne. Ah, di canne. I canneti. Ah, le canne, quelli canneti. No? Le canne se le fa qualcosa. Lei ha mai fatto una canna in vita sua, Di Pietro? Lei non si è mai fatto una canna in vita sua, no? Che può giurare, ma manco se mi sparano. Indagava. Ma vuoi mettere tu la ventricina di Montenero di Bisaccia con un bicchiere di vino buono che fa la ventricina? Che cos'è? Che io, spiegatemi cos'è la ventricina, io non capisco niente. Di Pietro, la ventricina è un salame tipico di queste parti. Ci ho fatto, abbiamo fatto 3,20 quintali di pasta con la ventricina quando è venuta al primo sabato d'agosto, sono venuto a fare la festa in campagna. 3 quintali di ventricina, pasta e ventricina. Ma com'è fatta sta ventricina? Com'è fatta sta ventricina? È fatta, è praticamente il prosciutto di maiale, il lombo di maiale, con un po' di grasso pure, con il, come si dice, con il peperoncino rosso, fatto essiccare ed è una squisitezza. Una cosa di una pesantezza inaudita. Vabbè, valio, sai quante cose pesanti ci stanno a farsi digerire certe cose a Montecitorio? Alla fine buono per la ventricina. Senta un attimo, non mi dia una definizione non buonista di Cossiga, che di lei ne diceva di tutti i colori, diceva che era cretino, che era stupido, che non capiva niente, cioè, mi dia una definizione non buonista. Vedi che pure Cossiga sbaglia. Vabbè, sbaglierà, cioè, gli ha fatto una prefazione. Come una prefazione? Ha fatto una prefazione al libro Cossiga sulla Costituzione. È vero. Cossiga diceva delle cose e poi in realtà si pentiva di dirle. Mi dia sta definizione di Cossiga. Cattiva di Pietro. Cattiva di Pietro. No. L'ha rispettato, cioè, l'ha rispettato perché è morto da poco, diciamo la verità, perché altrimenti uno potrebbe parlare in libertà. C'è sempre questo rispetto che si ha nei confronti di chi è morto da poche ore, no? Benedetto il Signore, che meno male, lei dice, no? Meno male che... Senta, ma lei dal PDL chi si prenderebbe? Mi dica la verità, per esempio questo Granata se lo prenderebbe? La L. La L, così rimane il PD. Sì, no, è d'accordo. Ma qualche uomo politico che le piace dell'ex PDL, di Futuro e Libertà, per esempio questo Granata, se lo prenderebbe subito con lei? No, veramente bravo Granata. Io lo vedo la Commissione di Giustizia, ma è bravo davvero. Bravo davvero. Sì? Campagna acquisti! Ma lo prenderebbe con lei all'Italia dei Valori? C'è stato qualche Ma il problema di fondo è sempre quello. Domandate a noi se mi prende a quello, ma gli hai chiesto a quello se ci viene con me? Io manco quando ero giovane non facevo mai la prima mossa. Però quello più vicino all'Italia dei Valori chi è adesso? Quello nel centrodestra, il più vicino all'Italia dei Valori chi è? Antonio Di Pietro. No, perché lei si sente perché lei si sente di destra, diciamo la verità, lei si sente un po' di destra. Scherzo, perché no, che scherzo, lei dice la verità. Senta, però vado a lavorare, un attimo Di Pietro, un'ultima, perché non c'è il sole che fa del lo so, un attimo, un'ultima cosa, il tramonto si avvicina. Un'ultima cosa, lei qualche giorno fa ha detto, anzi prima aveva detto nessun governo tecnico, poi a un certo punto se ne è uscito dicendo beh sì, si potrebbe fare un governo per 3 mesi per fare la legge elettorale, che non sia poi quella. Ma perché il fatto di Terese dice, pure lui dice, se si potesse andare con una nuova legge elettorale e una nuova legge sul pluralismo dell'informazione, sarebbe meglio. Io pure, se si potesse andare ma quale legge elettorale? Se si potesse andare nel posto e prendere la luna, io sono contento. Però siccome pure io lo voglio queste due cose, lo voglio, allora se qualcuno riesce a farla in 3 mesi e solo queste, senza fare i furboni che dicono che vanno al governo per fare queste leggi, poi se stanno 3 anni a governare per fare tutt'altro, vabbè, allora facciamole queste cose. Ho capito, ma la legge elettorale qua? Se a lei le dicessero ti ricrescono i capelli, non lo so se quando ce l'hai i capelli. No, io ce l'ho. Ce l'hai i capelli, per fortuna, sì. Allora, ti cascassero i capelli. Cosa voglio dire? Voglio dire, certo che mi piacerebbe avere un governo tecnico che in 3 mesi mi fa una nuova legge elettorale e mi dice che l'informazione finalmente... Ho capito, che percentuale dà questa ipotesi? 0%, 2%, che percentuale... No, 0% esagerato, dai, non esagerate. 5%, 2%, 3%, ma poi quale legge elettorale, Di Pietro? Tutti quanti dicono nuova legge elettorale e poi sono tutti divisi, quale legge elettorale? Guarda, per me l'ideale sarebbe i collegi uninominali per un sistema bipolare, e con primarie di coalizione nell'ambito di ciascun collegio, se ci fossero. Cioè il sistema all'inglese, all'americano. Dopodiché, per l'amore di Dio, purché si trova un sistema con cui vengono scelti i candidati da parte degli elettori, perché adesso, guarda, è una cosa che non se ne può più. Noi siamo 5 che scegliamo i nostri candidati ed è un tiraggio di giacchette che non se ne può più. Le preferenze, guarda, le preferenze pure per uninominali, chi le sceglie? Guarda che le preferenze anche per l'Andrangheta, per la Camorra. Però voglio dire, come fai, sbagli, alla fine è una questione anche questa di etica. Lo sa Di Pietro che c'è qualcuno che ci segnala che ci sono trattori da 70.000 euro e quello suo forse è vero? Goldoni, come piccolo Goldoni? Trattorino, io l'ho pagato 30.000 euro, l'ho pagato nuovo, l'ho comprato, come si dice, a zero ore. Quelli che vanno alle prove, diciamo così. No, non era nuovo. Una raccomandazione. No, nessuna raccomandazione. Trattamento non comincia a fare, venite qua a vederle. Trattamento di favore. Ma nessuna, manco lo sconto m'hanno fatto. Trattamento di favore, chilometri zero. Con la ventricina l'ha pagato. Chilometri zero. Ventricina e capocollo. Arrivederci. Grazie. Ho fatto pure una pubblicità. Goldoni, piccolo trattore Goldoni, 30.000 euro, chilometri zero, raccomandazione. Ci stanno pure a 70.000 euro, è vero. Grazie. Borsa, grazie Di Pietro. Trattore, ma è sul trattore o no? Dove sta? È sul trattore adesso? In questo momento non sono sceso dal trattore. È sceso dal trattore. Intervista dal trattore, una cosa spettacolare. No, devo andare al paese perché alle 19 c'ho la... Lo so, ho letto, una festa. Che c'è? Una festa? Che c'è? No, c'ho prima il TG3 e poi la festa. Prima il dovere e poi il giacere. Dovere... Stasera la festa di Montenero, ho riportato su il carro che c'aveva mio padre, perché io c'ho il trattore, mio padre c'aveva i buoi. Allora quel carro, siccome è rimasto così nuovo, l'ho portato alla festa di Montenero, c'è la targa, anno 1960, dietro giù. Ma lo sa che lei... Dire la pagata, c'è scritto pure quando la pagata, mille lire. Fantastico, ma perché lei disse una volta che non sta mai in TV? Io ci ho fatto una sigletta un po' satirica, perché lei sta sempre in televisione, disse una volta da Fazio, non sono mai in televisione, com'è possibile? Ma quando mai? Ma tu non mi scambi per figlio. Ma lei sta sempre in televisione, Di Pietro. Ma per figlio, ma sei un pidellino pure tu. Ma che pidellino, lei sta sempre in televisione, Di Pietro. Io sono quello di Montenero, non quello di Arte. Lei è sempre lei dica la verità, è sempre in televisione. Ma fa bene a stare sempre. Ma lei fa bene a stare alla parrocchiale. Lei fa bene a stare sempre in televisione, però è così, sta sempre in televisione. Ma quando mai? Ma come quando mai? Vabbè. Grazie. Devo andare che mi aspetti il dovere. Eccoci qui, 1834 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, TG2. Alla Camera Ardente a Roma, l'omaggio del mondo politico e della gente comune a Francesco Cossiga, napolitano, un grande statista. L'OCSE conferma la ripresa economica in Europa, in salita il prodotto interno. La Germania si conferma locomotiva dell'area euro. In Italia il PIL a più 1,1%. In uno scontro frontale muore una donna incinta. I medici sono riusciti a far nascere la figlia, che adesso è ricoverata in gravi condizioni. Scelta francescana di un milionario austriaco, stanco degli eccessi del consumismo, ha donato tutti i suoi beni ai poveri, tenendo per sé soltanto 1000 euro al mese. E andiamo a sentire anche Studio Aperto. L'ultimo saluto a Francesco Cossiga, un grande statista, ricorda Napolitano. Folla la Camera Ardente, personaggi della politica, delle istituzioni e tanta gente comune. Nel pomeriggio l'omaggio commosso del premier Berlusconi, domani a Sassari i funerali in forma privata. Como, una 21enne al nono mese di gravidanza resta ferita in uno scontro frontale. In ambulanza partorisce una bimba con un cesareo d'emergenza, poi muore. Gravissima la neonata, il nonno in lacrime, deve farcela per sua mamma. Litigava per strada con la fidanzata, se l'è presa con un estraneo. Un giovane pregiudicato ha riempito di calci e pugni un uomo davanti a un pub di Bologna. La vittima, 58 anni, ora è in coma. L'estate dell'amore chimico. La stagione delle vacanze fa registrare un boom di pastiglie ed erbe per migliorare le prestazioni sessuali. Viagra e Cialis i più gettonati, e a Savona gli ambulanti vendono addirittura un afrodisiaco tarocco da comprare in spiaggia. Tutti quanti fan ballare, lasciandomi a guardare. Che rabbia mi fa! Capire berlusconismo si avrà quando Berlusconi non supera più le politiche. Perché Berlusconi non avrà successori. Perché non è possibile, salvo che non sia un clono di Berlusconi. Ma pare, almeno la maggior parte, non so se scientificamente si possa fare, ma la legislazione anche di. Le legislazioni più avanzate come quella britannica e quella americana proibiscono espressamente con gravi pene e anche col taglio radicale dei finanziamenti alla ricerca la clonazione umana. Non credo che Berlusconi possa essere clonato. Le migliori frasi di Cossiga, questa sul Berlusconi clonato è sicuramente tra i top. Nel novembre del 2009, ultima intervista al TG2 sui misteri d'Italia, sentite la risposta finale. Agli italiani piacciono molto i romanzi d'appendice, quindi la dietrologia. Loro pensano sempre che ciò che appare essere vero non lo sia, e devono trovare sempre una soluzione complicata per le cose semplici. Lei che cosa sa dei misteri italiani? Dei misteri italiani? Nulla. Bellissima! Cosa sa dei misteri italiani? Nulla. E poi una frase recente, un'intervista recente al Giorno di Cossiga nei giorni di manifestazioni studentesche. E come sapete Cossiga, il giorno dopo anche alla Zanzara, disse bisogna mandare degli infiltrati dentro le manifestazioni degli studenti e così, diciamo, provocare, tra virgolette, degli incidenti. Era una delle provocazioni, scusate il gioco di parole, la ripetizione della parola provocazione, di Cossiga, credo non avesse nulla di serio, ma su internet impazza questa frase di Cossiga al Giorno recitata in modo, diciamo, nel modo più disparato. Sentite questa, tratta come se fosse una frase dell'Istituto Luce. Milano, giovedì 23 ottobre 2008, bollettino politico EIAR. Oggi il senatore a vita, già presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, è intervenuto a proposito dei pericolosi casi di insubordinazione contro il potere didattico da parte di alcuni studenti in tutte le scuole del Regno in un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. Ecco le sue parole. Maroni dovrebbe fare quello che feci io quando ero ministro degli interni: ritirare le forze di polizia dalle strade e dalle università, infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e fuoco le città. Dopodiché, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale. Non arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli. E picchiare anche quei docenti che li fomentano, soprattutto i docenti. Non quelli anziani, certo, ma le maestre ragazzine, sì. Bollettino politico Eiar di giovedì 23 ottobre 2008, Milano. Datemi un martello, che cosa ne vuoi fare? E lo voglio dare in testa. Bene, ascoltatori, all'800240024, Giorgia ci chiama da Prato, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica, carissima Giorgia, bene. Senta, intanto voglio salutare Telese, che mi piace tanto. Adesso ci ricolleghiamo. Dov'è Telese? Dov'è sparito? È proprio, guardi, una simpatia, anche per le sue idee ho simpatia. Luca, c'è un'ascoltatrice che è una tua un'ammiratrice, sì, sì, spassionata. Dove sei? Sì. Dov'è? Dov'è? Ti cerca, Telese. Eccomi. Giorgia ti adora. Sì. Giorgia quale? Giorgia, non Giorgia la cantante, Giorgia un'ascoltatrice da Prato. Oh, che bello. Meglio. È datata, sai, Telese. È datata, no, signor, non dica così che è datata, che c'entra. Ah, che è datata, meglio se è datata. Sì. Ma stai, che cosa dici, Luca? Ma sei impazzito? Ma sì, rispetto a queste sbarbine arrampicatrici. Bravo Telese, bravo, bravo. Cerchi di insegnare a Cruciani un po'. Cosa? Che mi deve insegnare? La giusta via. La giusta via cosa? La giusta via. Brava, brava. Hai visto che bel pubblico che c'è oggi? Ma lo so, Cioè, ti sto nobilitando la zanzara, questa è la verità. Vabbè, ma lo sappiamo, lo sappiamo che il tuo ingresso... oggi mi consola. Fra poco c'è la Pivetti, fra poco c'è Irene Pivetti in collegamento con noi, che va a fare l'assessore a Reggio Calabria, ti rendi conto, Telese? L'assessore a Reggio Calabria, Pivetti, io donna del nord. Io la voglio vedere. Senta, manco in fotografia. Ah, secondo lei non c'è, secondo te non ma c'è manco in fotografia? Non ci sarà mai. È come la Gelmini che è andata a Reggio Calabria. Come non ci sarai? Ci sarai tra pochi minuti, ci sarai. No, fra pochi minuti devo andare. Ma dove devi andare? Dov'è il destino, la patria. Ma dove devi andare? Ma devo scrivere un pezzo perché sono stato subissato di lettere di protesta. Appunto, lettere di protesta per che cosa? Ho fatto un ritratto di Cossiga e in un personaggio sicuramente controverso e ambivalente l'ho rappresentato, secondo me, con una grandezza che aveva nel bene e nel male che andava detta. Mi hanno 500 messaggi sono arrivati. Perché secondo i lettori del Foglio e i visitatori del sito del Fatto e i visitatori del sito del Fatto, doppio lapsus, Cossiga sostanzialmente un assassino, diciamo la verità, Luca. No, per molti, ma anche quelli di Repubblica, anche quelli dell'Unità, cioè c'era un grande filone demonologico che su purtroppo Cossiga, c'è anche nella sinistra. Secondo me una sottocultura che c'è anche in certo berlusconismo, che tende a rappresentare l'avversario come un mostro. Ebbene, quando Cossiga muore io ci tengo a non rappresentarlo come un mostro, perché non era un mostro. Allora e abbiamo Giorgia, resti con fermo. Telese, dove ti trovi? Hai i gonfiabili un'altra volta? L'orecchio di Cruciani, sì, sono è i gonfiabili di Fregene, signora Giorgia, si rende conto che come uomo parla bene, Telese, che uomo parla bene. Che uomo di famiglia parla molto bene. Pensi, signora Giorgia, va a giocare ai gonfiabili col figlio Enrico. Bravo. La mattina a Fregene, poi a un certo punto va via e va al Fatto a scrivere al Fatto. È un uomo perfetto. Senta, Giuseppe, acquisisci l'indirizzo della signora. No, adesso non fare un mazzo di rose. Adesso non fare lo spiritoso. Un attimo solo, però, papà, senti, chi è Enrico? Sì. Un attimo solo, Luca, un attimo solo. C'è Irene Pivetti con noi. No, buonasera. Come no, devi restare un attimo. Madre. Dille quello che volevi dire, non ti tirare indietro. Dille quello che volevi dire. Sì, lo devi dire. Convinto. convinto, conoscendo la Pivetti, che non andrà mai in Calabria e che si assume questo incarico resisterà massimo 2 mesi. Poi ditemi come verrà. No, aspetta, è qui, non te ne andare, non è... abbi il coraggio di restare. Pivetti, buonasera. Buonasera. Ha sentito Telese, sì. Telese è veramente l'uomo perfetto, è anche un fine umorista, scopriamo stasera. Però è convinto di questo, dice lei va a fare l'assessore allo sviluppo a Reggio Calabria. È una profezia. E poi in realtà non gliene frega niente, fra 2 mesi tornerà indietro. Vabbè, ci vediamo fra 2 mesi, ne parliamo. Adesso sono assessore da un anno in un comune dell'Appennino che si chiama Berceto, nessuno avrebbe scommesso 2 lire, ed è un anno che ci sto andando minimo una volta al mese, spesso ogni 20 giorni, quindi penso che Reggio Calabria la prenderò almeno altrettanto seriamente. Cosa ne dite? Lo sai qual è il punto? È la sfida aperta, Luca, fra 2 mesi. Luca, lo sai qual è il punto? Io e te siamo convinti di una cosa, per carità, con grande rispetto nei confronti di tutti e figuriamoci anche nei confronti di Irene Pivetti, però siccome abbiamo avuto ospite prima di Pietro, ma la Pivetti con Reggio Calabria che ci azzecca? Cioè, questa è la sostanza vera o no? Non è questo che ci domandiamo? È un po' sì, Pivetti, che dice lei? Ma io, guardate, vi dico che ci azzecca, non lo so, questo magari lo diranno i ragazzini, se saranno contenti oppure no del lavoro che riusciremo a fare insieme. Per quanto mi riguarda, il tema del Sud è un tema che non è soltanto di Reggio o della gente del Sud, è un tema che riguarda ovviamente l'Italia, del quale mi sono occupata da sempre, quando facevo politica. Quando va bene, non la devo scappare, verificheremo la scommessa, grazie. Scappa, è okay, meglio, scappa, ciao, deve Luca. Scappare da Enrico, e il figlio. Scusa, ma sento leggermente con fatica perché sono anch'io cellulare. Comunque sia. Dove si trova, signora Pivetti? Sono in Brianza con i miei figli in questo momento. Dalla Brianza a Reggio Calabria, vedete che. Esatto, dalla Brianza a Reggio Calabria. Infatti, mezz'ora fa stavo guardando giusto appunto i voli, perché lunedì o martedì sono giù col sindaco e faremo. Quante volte ci andrà a Reggio Calabria? Non lo so, adesso vedremo. Più o meno. Facciamo tutte le volte che sarà necessario, mettiamola così, senza risparmio, come di solito io lavoro, quindi... Ma a che serve Irene Pivetti come assessore? Scusi se le faccio queste domande un po' brutali, ma noi siamo abituati qui alla Zanzara. Penso questo, allora, ho conosciuto Raffa in occasione di attività di carattere sia culturale che sociale. Raffa è il sindaco, sì. Perché siamo entrambi parte di una fondazione che si chiama Mamma Grecia, che si occupa precisamente. Aspetti, che la sentiamo malissimo, la dobbiamo richiamare. Traffico intanto, 18:47, richiamiamo subito dalla Brianza. Dov'è? In Brianza, sì, in Brianza, dalla Brianza, Irene Pivetti, che però evidentemente si sta muovendo, il telefonino funzionava maluccio. Siamo qui, 18:48, 800 24 00 24, collegamento dalla Brianza, dal telefonino Irene Pivetti, ex presidente della Camera. Come dire, Pivetti, come la posso definire? Ora orgoglioso assessore di Reggio Calabria. Orgoglioso assessore allo sviluppo a Reggio Calabria. Lei sa benissimo che uno dice assessore allo sviluppo vuol dire tutto, non vuol dire niente. Insomma, che farà concretamente? Ma che farò concretamente, questo ve lo dico esattamente dopo la riunione che facciamo martedì col sindaco, perché ovviamente sarà lui a dover indicare le priorità. Per quanto mi riguarda, penso che dovremmo partire senz'altro dalla valorizzazione delle risorse culturali di Reggio, che non sono solo i magnifici bronzi e Biriace, ma un tessuto culturale che ha 3.000 anni di storia, e per fortuna anche oltre a illustri morti ci sono anche dei grandiosi viventi, quindi valorizzeremo quelli. Penso che dovremmo mettere in campo delle iniziative di respiro internazionale. Addirittura. Reggio Calabria è prevista come città metropolitana dalla legge, e quindi merita uno sviluppo di questo tipo. Tra l'altro, i calabresi, voglio dire, sono nel mondo come emigranti. Bene, sarà ora di rivendicare con orgoglio il fatto che gli italiani, calabresi e non, sono un punto di riferimento per la cultura nel mondo, a prescindere dalla famosa valigia di cartone. Senta, Pivetti, però io voglio capire una cosa, per carità, una domanda che dovrei fare al sindaco di Reggio Calabria e non a lei. Proviamo a vedere se sono. Poi magari domani la chiamerò. Che bisogno c'era per un sindaco, perché lei è una persona molto conosciuta, che ha un'immagine, quello sicuramente è importante, da parte di un sindaco di Reggio Calabria, di chiamare Irene Pivetti come assessore? Perché? Non lo capisco. Io non saprei, tutto questo sono disperazione. No, ma è una cosa, insomma, sto scherzando naturalmente, però. Aveva sicuramente delle alternative, evidentemente ha ritenuto che aveva sotto mano una persona che lavora, ribadisco, senza risparmio, che un minimo di esperienza sia politica che nel sociale se l'è fatta, che forse 4 idee utili poteva spenderle, e poi certamente avrà fatto anche un simpatico ragionamento d'immagine. Dice: io voglio dare un segnale, dire che con questa amministrazione Reggio Calabria riparte, vuol pensare in grande, e calo qualche carta di prestigio. Non sono soltanto io, prestigio mi permetto di dirlo anche no, è così, lo dico io. Si loda, si imbroda, mi dice la mia madre, quindi occhio a darsi complimenti, ma insomma per dire un fatto, un volto conosciuto, un volto anche conosciuto televisivamente, che non guasta. No. Non sono solo io, siamo tre assessori tecnici, vedremo poi come si... Vabbè, lei è quella più conosciuta però. Senta, l'amministrazione, Piretti, mi scusi un attimo, l'amministrazione di centrodestra, no? Questo significa che lei... ritorna nella politica attiva dopo tanti anni col centrodestra oppure no? Me lo dica sinceramente. Guardi, io sono molto contenta di essere chiamata come tecnico e di continuare a fare questa, anche perché tra l'altro in questo caso la giunta è dal punto di vista, cioè è una giunta di centrodestra, ci sono delle... Poi ormai dire centrodestra è a dire centrodestra. Che sarebbe del tutto fuori luogo che io, che in questo caso davvero vengo da fuori, cioè un conto è sapere, avere idee intelligenti su come impostare lo sviluppo della città, ovviamente condividerle col sindaco e con... Dunque e lei non torna, diciamo, non torna col PDL, col PDL più Lega, diciamo. Una cosa è infilarsi nelle questioni di partito locali, dove io francamente non c'entro proprio. No, locali, a livello nazionale sto parlando. Sì, vabbè, ma che livello nazionale... io adesso sono chiamata a una giunta, a una questione amministrativa, poi vedremo, a livello nazionale c'è tempo, c'è un sacco di tempo. Però non lo esclude, non lo esclude. Ma non so, la vita è lunghissima, c'è un sacco di tempo davanti e non ho fretta in nessun caso, anche perché io sono molto contenta di essere così orientata e attenta alle questioni sociali. Ribadisco, assessore, volevo dire soltanto un'ultima cosa sul che cosa farà. Qualunque saranno le scelte che noi andiamo a fare, saranno soltanto grandi eventi, saranno delle attività culturali che genereranno occupazione. Mettere in cima quello lo speriamo. Senta, ma quanti soldi prende un assessore, così per curiosità? Non lo so. Ma io per il momento non ne prendo niente, quindi, però quando lo so glielo so dire. Senta, una domanda che non ho fatto, mi sono proprio dimenticato. Ma immagino che non le importi molto. Senta, una cosa le voglio chiedere. È vero, perché l'ho letta negli ultimi giorni di polemiche tra Fini, eccetera, è vero che quando lei era Presidente della Camera nel 94 Fini chiese le sue dimissioni quando la Lega ruppe col centrodestra, diciamo con Berlusconi? Io sinceramente questa cosa non me la ricordo, non me la ricordo proprio. Perché se me la ricordassi le direi ha cancellato quei momenti. Ha cancellato, perché non è stato evidentemente così rilevante. Cioè io di quel periodo, di quella crisi di governo, ricordo molto bene la situazione di tensione estrema, per cui io, Scognamiglio e Scalfaro, cioè i tre vertici, diciamo, istituzionali, in quel momento a qualunque partito appartenessimo avevamo il dovere di tenere stabile il quadro istituzionale, perché tra allora e oggi c'è un abisso di mezzo. Cioè noi all'epoca eravamo in un momento in cui la legislatura di prima era stata quella di Tangentopoli, sì, no, certo. Di inquisiti, 2 anni e tutti a casa a votare, altri 2 anni tutti a casa a votare, c'è un'instabilità istituzionale tale per cui la politica ne intesa come equilibrio. Però lei non se lo ricorda questo episodio di Fini che chiedeva la sua testa, diciamo? Non me lo ricordo, guardi, può guardarsi pure, ma nello starnazzo che c'è stato generale io a queste cose non badavo per niente, perché invece mi interessava molto, ribadisco, che la gente a casa, insomma, capisse che lo Stato, sì, le partiti litigano, ma lo Stato tiene. Senta, un'altra cosa, ma lei ritiene compatibile magari continuare a fare la televisione e fare l'assessore in una città comunque importante del sud come Reggio Calabria? Beh sì, certo, non vedo... Come si fa a fare televisione, a fare l'assessore in una città importante? In questo momento non ho nessun programma da condurre, cioè se mi chiamano a fare l'ospite non mi sembra che sia una cosa che è incompatibile. C'è gente che... No, l'ospite no, certo. C'è gente che fa il ministro e un giorno sì e l'altro anche da Bruno Vespa, cioè non è che dare... Quello è vero. So, vedremo, se avrò un programma da condurre mi porrò il problema, e chiaramente dipende, ti danno un quotidiano al pomeriggio tutti i giorni e pone dei problemi seri. Devi fare una cosa, cioè lei preferirebbe la televisione o fare l'assessore a Reggio Calabria, se le proponessero un programma? Ma no, non sta questa cosa, che dipende... No, io adesso sono assessore a Reggio Calabria e sto lì, così come sono anche assessore a Berceto, ho preso degli impegni e io francamente... Cioè lei può fare l'assessore a Berceto, può fare lo stesso assessore a Berceto e assessore a Reggio Calabria? Sì, sì, quello si può fare, anche perché tra l'altro, ribadisco, Berceto è gratuito, tanto per chiarire. Berceto, provincia di Parma, ricordiamo. Dunque lei farà l'assessore a Berceto? Un paesino nella montagna parmese. Certo, certo. Diciamo, lei sarà biassessore, questo pure un piccolo record. Non lo so, ma penso di no, penso che ce ne saranno stati così di persone che hanno fatto... Biassessori non lo so, bisognerebbe chiedere... Una cosa che ho guardato con attenzione, se ci fossero state delle incompatibilità, perché non volevo fare pasticci, ma non è nemmeno contemplata come ipotesi, perché appunto, cioè non fai l'assessore in due grandi... È una nuova cosa, no, certo, beh, capisco, non è che fare Reggio Calabria e poi a Palermo, certo. Ecco, capito, è un assessore di una grande città. Bene, bene, grazie. Dunque, va bene, senta, niente, poi comunque ve lo saprò dire, ma vabbè, lo saprete voi stessi se dopo di 2 mesi. Io penso che quella è l'ipotesi Telese, in realtà io non l'ho detto questo, è l'ipotesi Telese. Telese dice questo. Io non lo so, sono abbastanza scettico sul fatto che una grande città prenda un assessore lontano da quella realtà, ma questo resta un mio scetticismo di fondo. Poi, ma guardi, può darsi, adesso vedi, intanto ci vediamo tutti al lavoro di qui a... Ma certo, non c'è dubbio, quindi... non c'è dubbio. Sarà la prova migliore. Il lavoro è sempre la misura di ogni cosa. Sono perfettamente d'accordo di quasi tutte le cose, poi non dei sentimenti, ma della qualità delle persone, sì. Grazie, a presto. 18:56, 800 24 00 24, abbiamo ancora qualche minuto. Giorgia, eccoci qui, Telese è scappato. Eccomi. Telese è scappato. Lei che dice? Ma si può fare l'assessore, il biassessore? Ma io non lo so. Io non lo è so. Molto scettica lei, sì. Signora Giorgia. Anch'io comunque sono molto scettica. Dire, il 14 d'agosto il giornale disse che avrebbe prodotto i documenti che Fini questi mobili li aveva portati a Monte Carlo. Sì. Ora è tutto zitto, non ne parla più. Come mai? Lo so, Giorgia, su questa storia dei mobili, su questa storia di Fini visto a Monte Carlo, certo l'inchiesta un po' scricchiola. Ecco. Però, da parte del giornale. Da parte del giornale, cioè. Però vedremo, no. Ho detto che scricchiola. In realtà poi il punto non è quello, Non è, ma insomma... Certo, se poi uno insiste e fa commettere gli errori nel fare un'inchiesta, poi quell'inchiesta potrebbe crollare tutta. Abbiamo i documenti che lui, questi mobili, li ha portati a Monte Carlo. Regola questi documenti, perché ora parlano già di altre cose, del notaio, non so, ho letto un pochino, capito? Va bene, Giorgia, grazie. Poi la metto in contatto con Telese. Sì, no, volevo dire a Telese una cosa, un appello. Siccome qui a Prato c'è una bellissima biblioteca, un'emeroteca, c'è tanti giornali ma manca il fatto... Questo le interessa molto a te? No, io ho parlato al direttore e lui mi ha detto non abbiamo soldi, ci costerebbe 360.000 euro l'anno. No, 360.000 euro, 360 euro al massimo. Sì, ti ho sbagliato. 300... Sì, che fa un appello a Telese se gentilmente ci manda... Va bene, lo farò. Ci parlerò, grazie. Va bene? Grazie. Paolo da Terni, buonasera. Buonasera. Che mi tocca fare? Pure l'intermediario tra l'emeroteca di Prato e il Fatto Quotidiano. Si rende conto lei o no? Sì, io ero partito con l'idea di Pietro, no? Poi lei mi ha dato la notizia che la Pivetti, leghista, va a Reggio Calabria. No, non è leghista, non è più leghista da 10 anni, Pivetti, se non di più. Ma arrendo. Ormai non bisogna meravigliarsi più di niente. No, perciò questo lo sapevamo. Ero armato di buone intenzioni. Lo sapevamo anche prima, però, Paolo. Lo so, però quando ho sentito la Pivetti è troppo. Perciò. Dunque, abbassi il telefono. Grazie, Paolo. Salvatore, provincia di Ragusa. Dalla Sicilia profonda, Salvatore. Pronto? Eccoci qui. Buonasera. Dica. Niente, io volevo fare una piccola premessa. Quale? Che sono un elettore di centrodestra, sono stato anche candidato tra le fila di Forza Italia. Non la faccia lunga perché ha 30 secondi. Prego? Non la faccia lunga perché lei ha 30 secondi, forse meno. 30 secondi. Poi magari riprendiamo dopo. Alla luce di questo volevo dire che comunque ritengo che quello che abbia fatto Fini di cercare di dare un freno a Berlusconi ci voleva perché Berlusconi è andato un po' fuori dalle righe. Ho capito. Rispetto a quello che ci aveva promesso in campagna elettorale non l'ha fatto. E allora riprendiamo subito dopo il giornale radio 800 24 00 24. Eccoci qui, 19:14, 800 24 00 24. I titoli del TG3. Fini e Gianni Letta a colloquio, ma è sempre scontro con Feltri. Venerdì vertice del PDL sui 4 punti. Cicchito, lavoriamo per l'accordo. Bossi, impossibili altre maggioranze, temono il voto ma non hanno i numeri. Il PD, basta intimidazione al Quirinale. Di Pietro in diretta al TG3. Cossiga, grande uomo di Stato, dice Napolitano alla Camera Ardente, prima e seconda Repubblica in fila per l'ultimo saluto. Cossiga, uomo di molti misteri, attesa per conoscere gli scritti elaborati in solitudine negli ultimi mesi, voleva liberarsi di pesi e fardelli. La popolarità di Obama ai minimi storici, solo il 42% degli americani lo approva e la moschea di Ground Zero continua a suscitare polemiche. A trainare la ripresa non ci sono più gli Stati Uniti che rallentano la crescita, ma Germania e Regno Unito, Italia ultima tra i grandi in Europa. Legambiente denuncia, le frane di Lipari potevano provocare una strage, necessari investimenti contro il dissesto idrogeologico del paese. E andiamo anche con Sky TG24. L'ultimo addio a Cossiga, un grande uomo di Stato, dice Napolitano. Sfilata di autorità, la Camera ardente, tanti anche i comuni cittadini. Domani messa in suffragio a Roma, poi funerali privati a Sassari. Su Monte Carlo solo fantasia, attacca Fini, Feltri respinge le accuse. Londra e Berlino motori d'Europa, il PIL cresce ma l'Italia fa fatica. Schianto in auto vicino a Narni, due ragazze e un ragazzo le vittime. Donna incinta muore in un incidente a Como, i medici fanno nascere la bimba. Dramma nel Reggiano, inietta al marito un cocktail letale, poi si impicca. Dopo l'ennesima fuga, Mantovano annuncia presso altri centri per immigrati. Atmosfera da Champions per la Samp, stasera preliminare col Werder Brema. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno, che mi dà spazio. Come non ascoltano mai? Mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione? Scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? Come vedete c'è in collegamento con noi l'onorevole Antonio Di Pietro. Buonasera Di Pietro, intanto grazie per essere venuto nonostante buonasera, l'infortunio. Buonasera. Si è rotto una caviglia come il presidente Fini? No, né lui né io ci siamo rotte le caviglie, sia lui che a me stanno cercando di spezzare le gambe, ma non so a Fini, a me certamente non ci riescono perché come vede sono ben piazzato per terra e non ho nulla di rotto, grazie, ecco, a Dio. Continuerò a rompere sulla questione morale fino a quando vivrò. Ecco, a proposito di Fini, visto che ne abbiamo parlato, dopo questi attacchi, ecco, ma secondo lei si dovrebbe dimettere da Presidente della Camera o che dovrebbe fare? Io credo che Fini debba chiarire fino in fondo la vicenda, ha già fatto 30, faccia 31, ha già spiegato in 8 punti come si sono verificati i fatti prima, adesso li deve spiegare successivamente quel che è avvenuto, vale a dire alla fine chi ha comprato questa casa e quando l'ha pagata. Se questo non viene fatto, non viene fatto. Era Antonio Di Pietro al TG3, come ci aveva anticipato, della serie Di Pietro che non va mai in televisione, e poi l'intervista si conclude in questo modo. I governi sono governi politici sempre, tecnici, sono un po' una maschera. Se davvero si riesce a fare una nuova legge elettorale con un governo tecnico e una nuova legge sul pluralismo dell'informazione, io ci sto, ma siccome non ci credo a questi marpioni della Prima Repubblica che dicono che ci vanno lì per 30 secondi e poi ci stanno 30 mesi, anzi 30 anni, allora dico, se si deve fare, il capo dello Stato deve assumersi la responsabilità di temporale, di un limite temporale e di un limite di competenza, non più di 90 giorni e non più di due leggi, solo due, per andare al voto. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno, che mi dà spazio. Come non ascoltano mai? Mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione? Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? E adesso ancora teatrino della politica con una nuova canzone. Con il riflusso siamo tornati nel privato, nel quotidiano ognuno sfoga le nevrosi, va bene tutto anche se non funziona niente, ma c'è una smorfia sulla faccia della gente. Quando finisce la paura e lo sgomento, a chi si incazza io gli faccio un monumento. E qui sentiremo due esponenti importanti del centrodestra, di quello che rimane del centrodestra, Maurizio Gasparri e Renato Schifani, appropriarsi di una parte delle frasi di Cossiga nelle lettere scritte alle massime autorità dello Stato, per dire il popolo sovrano è l'unico depositario della, de, della politica. Nella politica la cosa principale è il popolo sovrano, e dunque, dicono, Napolitano dovrebbe ricordarselo, soprattutto Gasparri. Credo che questa frase, che bisogna ben governare la Repubblica al servizio del popolo, unico sovrano del nostro Stato democratico, debba essere motivo di riflessione anche in queste ore. Sia motivo di riflessione per tutti. Senatore, siamo in chiusura. Promesse elettorali, ma stai tranquillo, non si sono dimenticati. E poi Schifani. Un messaggio forte a chi fa politica e ai parlamentari. Quella di governare la Repubblica a servizio del popolo, da lui definito unico detentore della sovranità dello Stato democratico. Questo è un messaggio alto e nobile. Su Radio Radicale il lapsus di Donna Assunta Almirante, che invece di dire Francesco Cossiga dice Francesco Storace. Non ce ne voglia Storace, per carità, è vivo e vegeta. Abbiamo in comunicazione telefonica, abbiamo una telefonata, la prendiamo. Assunta Almirante, buonasera. Sì, sono Assunta Almirante e sono da Levico. Sono solo disperatamente proprio dispiaciuta per la morte del mio amico Francesco Storace, Francesco Cossiga. Sono veramente dispiaciuta, e tutte queste lamentele che adesso sento fare, che ha fatto questo, che non ha fatto quello, sta di fatto che un uomo politico come lui non ce n'è. La realtà è questa, io sono solo dispiaciuta perché oggi è facile ricordare. Pronto? Casa Gaucci? Venito al correo dei voti. Eh no, sempre la segreteria telefonica a Casa Gaucci. Così diversi da quelli che hanno lottato, ma come fai anche volendo a ribellarti? Se con la dose la siringa t'han fregato. L'incredibile assessore D'Alì, assessore alla cultura e non so che altro, della provincia di Palermo, il quale sostiene che i Litfiba avrebbero dovuto avere una sorta di contraddittorio quando tuonavano nei confronti di Berlusconi, di Dell'Utri, della P2, della P3. Canzone, Elio Restore Tese. Litfiba, tornate insieme, vi ricordate di quell'epoca che fu. Litfiba, non vi conviene una carriera da Renzulli e da Perù. La scena del musicale si è impoverita fin dal vostro scisma. Rivogliamo i vostri, speriamo di sentirne sempre più. La scena del musicale si è impoverita all'incontrario. L'assessore D'Alì. Quello non era un concerto, quello poi si è trasformato in un comizio. Poi cominciò a inveire contro il Papa, contro il Vaticano, contro tutto e tutti. E non parlo del relato, io c'ero. E non c'è bomba, bumeranga, non c'è iere, troma, rumba, dai maremma, buhaiolo, fate i grulli. Dai Piero, fai la pace con Renzulli. Dai Piero, fai la pace con Perù. Dovrebbero chiedere scusa per il tipo di linguaggio. Cioè, se io dico di un chiunque esso sia che ha rotto il C, che è un mafioso, eccetera, eccetera, io poi mi sento in dovere di chiedergli scusa. Sia che questo depositario del mio messaggio violento sia Berlusconi, sia che sia Di Pietro, sia che sia il fruttivendolo della strada. Per me dovrebbero chiedere scusa. Mai più in Sicilia, dunque, Litfiba, D'Alì. La scena del musicale si è impoverita fin dal vostro scisma. Rivogliamo i vostri Ma è più Litfiba in Sicilia, sei Litfiba. Poi secondo me, ovviamente, io poi non sono. Sei Litfiba, vengono in Sicilia a far comizi. Se proprio vuol far comizi, si candidi e faccia come Grillo. E poi la disperazione di D'Alì. Adesso sono un ex fan di Litfiba. Guardi, in questo momento le parlo non da fan di Berlusconi, le parlo da ex fan dei Litfiba, che apprezzo musicalmente, ma dei quali non ho apprezzato per nulla questa loro pervicacia nel portare avanti un messaggio violento, con un linguaggio violento, contro una parte politica. Fai la pace con Renzulli. Va bene, 19:25, questo era l'assessore D'Alì che si è incaponito su un concerto di Rit FIBA, il quale, durante il quale a un certo punto si trasportava una bara. Eccolo qui, uno dei momenti clou, dopo aver detto dell'utri è non so che cosa, una testa di cio, comunque una cosa di questo tipo. In un contesto storico di continuo cambiamento e di crisi profonda dei valori, è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari la venerabilissima loggia massonica Propaganda 2, in arte P2, e danno il triste annuncio al suo padre storico Licio Gelli. Licio! E partecipano al dolore la mafia siciliana, l'andrangheta calabrese, la camorra napoletana, Marcello Dell'Utri e naturalmente la tessera 1816 della P2, Papi Silvio Berlusconi. La scena del musicale, poverita all'incontrario. Paolo da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. No, volevo dire la mia sulla Pivetti. Ecco, io credo invece che la Pivetti sia una di quelle persone sufficientemente acculturate, attiva, sveglia, per modo di dire, che possa sostenere due ruoli contemporaneamente. Cioè il biassessore, dire... e magari qualche comparsata televisiva, lei dice? No, quella, la comparsata, ecco, come ospite, credo che non li porti via. Cioè, voglio dire, io direi che in realtà poi i doppi incarichi... Sì, ma scusi, che senso ha fare l'assessore a Berceto e l'assessore a Reggio Calabria? No, ma questo, diciamo... è vero che è piuttosto curioso. Sì. Io credo voglio che dire, sia l'unico, il primo caso della Pivetti, ecco, io sono su questo. Cioè, ci sono persone che non possono sostenere nemmeno mezzo incarico, eppure ci sono. Ci sono persone che potrebbero sostenerne tre. Voglio dire, scusi, ma quali competenze... Adesso, non bisogna essere per forza... Quando uno fa l'assessore non è che bisogna avere tutte queste competenze, uno può anche, sicuramente ha delle competenze per quello che riguarda la comunicazione, eccetera. Però Reggio Calabria, insomma, bisogna conoscere Reggio Calabria. Io l'ho anche chiesto, ma insomma che cosa ci azzecca fare l'assessore a Reggio Calabria, la Pivetti, donna del nord? Guardi, io non so di cosa parlo perché non so se Reggio Calabria... Perché lei dice che allora è in grado di sostenere i due incarichi? Certo, dal punto di vista del lavoro, della lei ha mai parlato... Non so, vorrei farle un paragone. Lei mi ha parlato ultimamente con i ragazzini, non so, di 20 anni, che fanno tre cose insieme e sono indisponenti. Multitasking, si dice. Qui, esatto. Qui, lei, secondo me, è una di quelle persone... Ma anch'io faccio 3-4 cose insieme, non c'è dubbio, ho capito, ma... capito, lei, però, lei è una di quelle persone che può, secondo me. La, ha le capacità... La Pivetti, lei dice, no? Come? La Pivetti, lei dice. Sì, la Pivetti. No, lei non so, lei... No, io non lo so, può darsi, in alcuni momenti sì, in altri no. No, per quanto riguarda l'assessore a Reggio Calabria... No, so. per carità, non lo farei mai. Politica forse un giorno, ma a Reggio Calabria l'assessore no, che c'entro io con Reggio Calabria? Però ecco, io non ci andrei a Reggio Calabria a fare l'assessore, non so come dire, cioè senza conoscere l'ambiente, senza conoscere il territorio, che ci vado a fare l'assessore a Reggio Calabria? Partendo con l'aereo 2 giorni a settimana, uno fa il consulente del sindaco per dei progetti internazionali, per delle cose che riguardano, no? Il futuro di appuntamenti internazionali, ospiti internazionali, non lo so, insomma, cose, il territorio, Reggio Calabria, insomma, è una cosa impegnativa, capito? Sì, no, io capisco. Mi ricordo che anche quando è diventato presidente della Camera si diceva lo stesso della Pivetti. Che ci azzecca questa? È vero o no? Quello è diverso, però. La stessa è presidente della Camera, 31 anni, certo. Sì, esatto. Però è stata capace, ecco, per quello mi ha fatto un'ottima impressione da questo punto di vista, e penso che sia una persona forse, no, ovviamente, sicuramente non del territorio, ma forse proprio per questo più capace di può darsi, di non lo so, degli elementi, può darsi che lei abbia ragione, che venendo dall'esterno io sono molto scettico. Grazie. Eccoci qui, 1932 800 24 00 24, per chiamarci in diretta qui alla Zanzara, e proseguiamo con gli ascoltatori. Gabriella da Torino, buonasera. Pronto? Buonasera, signora Gabriella. Buonasera, dottor Cruciani, mi spiace che non ci sia il dottor Telesi, ma non importa. Dice di essere occupato. Senta, posso dirle una cosa? Deve scrivere. Visto che è agosto, insomma, possiamo andare. Voi siete l'arbore e buon compagni della politica. Siete eccezionali, avete fatto, state facendo un programma così innovativo, eccezionale, che non solo è bello, è splendido. E io che non ho mai seguito la politica la sto seguendo in un modo, ma così basta. Ho detto troppo? Signora Gabriella, io sono commosso di fronte a queste cose. Ma no, perché con gli ascoltatori, sa, io ho un rapporto di amore e odio, ogni tanto arriva qualche bastonata anche a me, rispondo, eccetera. E lo so. E no, è così che stasera deve però essere, non vedo il sangue, vedo solo miele. No, io il sangue lo sento e come. E le assicuro che anche il sangue è divertente. Eh sì, è molto divertente. Ma cosa voleva dire al di là dei complimenti? Siete eccezionali. Ci voleva dire solo questo? Va bene. È troppo poco? No, per carità, è anche troppo. Non è troppo, creda, perché è un programma così nuovo che io spero che i radioascoltatori si rendano conto di quello che stiamo sentendo. Va bene, l'11 di agosto deve essere proprio la vostra giornata. Perché lei dice? Perché c'è anche la signora Giorgia, mi pare, che mi ha preceduta, che aveva il mio stesso, come dire, il mio stesso entusiasmo. No, lei era la signora Giorgia, era innamorata di Telesi in realtà. Ah, non di lei? Io ho avuto l'impressione che un po' meno. Grazie. Prego. Grazie. Francesco da Milano. Sì, buonasera. Buonasera. Tolgo i violini. Volevo intervenire riguardo l'argomento di Fini. Sì. No, mi sembra che la notizia di Fini è venuta fuori al momento giusto, ecco. In che senso, mi scusi? E nel senso che... lei sospetta qualche manina? No, mi sembra... Io adesso sinceramente non so da quanto tempo... è successo questo, il fatto, però mi sembra che è venuto fuori al momento giusto, ecco. Beh, ho capito, che significa, Francesco, al momento giusto, mi spieghi? Nel senso che da quando ha avuto qualche piccola discussione con Berlusconi tac, è venuto fuori la notizia. Lei dice la cosa è molto sospetta. Allora ascolti, premesso che io sono di destra, però la cosa non mi piace lo stesso, perché quando una cosa non è giusta... Non ho capito cos'è che non le piace. Cioè il fatto che lei pensa che ci sia dietro una manina che quando conviene a qualcuno passi le notizie, diciamo. Esatto, perché voglio dire, se le cose non sono giuste che vengano fuori, devono venire fuori, sono d'accordo che vengano fuori, però devono venire fuori quando succedono, non al momento giusto, ecco. Va bene, ho capito, lei è uno di quelli che pensa che insomma ci sia dietro tutta una macchinazione per fregare Fini. La ringrazio. Andiamo da Milano a Napoli. Grazie. Giuseppe, buonasera. Buonasera a lei, agli ospiti e agli ascoltatori. Caro Giuseppe, cosa mi deve dire stasera? Mi bastoni un po', perché altrimenti è tutto miele stasera, non mi piace. Niente, io volevo intervenire su due argomenti, se possibile. Il primo è su Fini e sull'alienazione dell'appartamento di Alleanza Nazionale. Io ritengo che quando ha alienato un bene che sia di un'associazione o di un gruppo, ne va data evidenza pubblica. E non va fatta una trattativa non privata, addirittura riservata, come mi sembra sia avvenuta. Sì, però all'epoca, quando ci fu questa alienazione, non gliene fregava niente a nessuno di questa vicenda. Comunque, la seconda cosa qual è, Giuseppe? La seconda cosa è delle probabili elezioni anticipate. E ritengo che in un clima di crisi profonda che il cittadino medio oggi vive, subisce un grosso stato di confusione con gli eventi che si stanno susseguendo non per ultimo questa scissione insomma del gruppo dei Siniani da Forza Italia dalla PDL creano uno stato di confusione da diciamo non dare serenità all'elettore laddove si andasse ad elezioni anticipate, di non dare serenità di voto guardi Giuseppe, io non riesco a capire, la ringrazio di questo intervento. C'è sempre la possibilità che l'elettorato non sia sereno, si può votare, questa paura di a novembre non si può, chi l'ha detto che a novembre non si può votare? In altri paesi non è che si fanno queste congetture, in altri paesi non è che si vota a rotta di collo come in Italia, per carità, ma perché non si può votare a novembre? Non è che sta scritto sul tavolo della legge non si può votare a novembre, non sta scritto da nessuna parte. La ringrazio Giuseppe, abbiamo diversi ascoltatori in linea, 800 24 00 24, ma c'è una foto che mi ha colpito molto sulla copertina di oggi, del settimanale Oggi, il direttore Umberto Brindani. Ciao Umberto, buonasera. Ciao Arbore o buon compagno, come devo dire. non lo so se Arbore o buon compagni, poi decideremo io e Luca. È un grosso complimento, per carità, l'ho incassato, perché queste cose ha fatto un monumento in vita. Esatto, diciamo, no? Questi complimenti si incassano e basta. Infatti, un po' ironicamente ho messo una musichetta così per prendere. Però non mettere la musichetta, ma devo dirti che io sono felice di essere in trasmissione, perché è semplicemente la mia trasmissione preferita. Non lo sapevo, non è combinata questa cosa. No, grazie. Quindi mi spiace di spargere altro miele, ma è la verità. Allora, questa foto, la foto che c'è in copertina questa settimana su Oggi, innanzitutto, così, siccome siamo in radio, cerca di raccontalo un po' agli ascoltatori. Credo che sia l'unica foto esistente o comunque recente di Gianfranco Fini con la sua famiglia acquisita, diciamo, nel senso che c'è Gianfranco Fini in posa con la compagna. Dove si trova? Si trovano a Roma, e la foto è stata fatta in occasione del battesimo dell'ultima figlia che Fini ha avuto con Elisabetta Tulliani, ed è stata fatta circa 3 mesi fa. Ma sono negli uffici di Fini alla Camera, che tu sappia? No, in un posto dove avevano fatto il ricevimento dopo il battesimo. Ho capito. Abbiamo sulla sinistra in alto, mi sembra, il papà di Elisabetta Tulliani, no? C'è il papà di Elisabetta Tulliani, poi la fidanzata del cognato. Che è la stessa poi della foto pubblicata da chi su... Esattamente, poi c'è Giancarlo. Sì. E sedute ci sono Elisabetta Tulliani con in braccio la più piccola, quella battezzata, che si chiama Martina, poi c'è l'altra figlia che i due hanno avuto, che è Carolina, e poi c'è la madre di Elisabetta e Giancarlo, che si chiama Francesca Frau. E dietro Francesca Frau c'è Fini accanto a Giancarlo Tulliani. Ecco perché hai pubblicato in copertina questa foto. C'è una storia dietro questa foto. Sì, c'è una storia che adesso ti racconto rapidamente. Ti dico il titolo che avrei voluto fare, che poi non ho fatto. E perché non l'hai fatto? Ritratto di famiglia in un inferno, perché insomma questa foto è no, perché non l'hai fatto innanzitutto, dimmelo, no, perché che ci hai ripensato poi? No, perché poi i calembour erano una cosa che funzionava sui giornali forse qualche anno fa, adesso credo che bisogna essere più chiari e più didascalici, quindi il titolo è Fini e famiglia, diciamo. No, la foto semplicemente è una foto che fa vedere tutti i protagonisti che sono finiti sulle prime pagine di tutti i giornali, non solo dei giornali di Feltri o di Libero, nei servizi di apertura di quasi tutti i telegiornali nelle ultime due o tre settimane. Quindi mi sembrava il caso di pubblicare una foto che noi avevamo e che non avevamo pubblicato all'epoca del battesimo. Ecco, perché non l'avete pubblicata all'epoca del battesimo? Non l'abbiamo pubblicata perché, come ho scritto, Elisabetta Tulliani è un tipino tosto e all'epoca, cioè 3 mesi fa, ci propose di fare questa esclusiva del battesimo, ed è un genere, diciamo, che sui giornali popolari funziona, no? Battesimi, matrimoni. Sì, sì. E che noi cerchiamo. Scusa, di solito queste cose qui come funzionano? Cioè, voi pagate. No, te lo stavo dicendo, cioè è un genere che noi pratichiamo con molta moderazione, perché quando si parla di VIP, quasi mai di politici, devo dire, i fotografati chiedono soldi, e quindi è una cosa che noi cerchiamo di evitare. No, in questo caso semplicemente era una cosa che loro volevano fare, l'hanno proposta a noi, abbiamo mandato un bravo fotografo. E poi c'era disponibile, cioè, avevano chiesto dei soldi per questo? No, assolutamente no. No, assolutamente no. No, semplicemente ci avevano offerto questa opportunità, insomma, di fotografare il battesimo. Beh, devo dire che per i politici, appunto, come dicevi tu, non è proprio usuale il fatto di offrire, no, delle foto del battesimo dei figli o di altre situazioni di questo sì, tipo. Sì, no? Anche se in alcuni casi può essere, come dire, un modo per evitare che ci siano decine di paparazzi, ecco. Quindi in questo caso, comunque, era stata una cosa, devo dire, estremamente gradita, estremamente cortese da parte di Fini e di Elisabetta. Purtroppo le cose sono andate male perché a Elisabetta le fotografie, per ragioni che tuttora mi sono scure, non sono piaciute, e quindi all'epoca mi negò l'autorizzazione a pubblicarle. Siccome, come dire, non credo che cambiassero i destini della nazione, 3 mesi fa, io, come dire, acconsentì senza nessun problema. Beh, anche perché poi senza l'autorizzazione non penso che si possano pubblicare, per cui... Ma sai, quella è una cosa che è sempre discutibile, ovviamente. Ah, infatti voi adesso la pubblicate. Adesso la pubblichiamo, ma per una ragione molto semplice: nel frattempo la foto è diventata una notizia. Sì. Quindi, come dire, sulla base del diritto di cronaca, io presumo di avere, come dire, di fare un servizio giornalistico. E la famiglia Tulliani potrebbe dire: noi non vi abbiamo dato l'autorizzazione, certo, a pubblicare quella foto? Certo, potrebbe dirlo. È già successo, no? In queste ore, no? No, ancora no, spero che non succeda, perché insomma, sai, una delle cose che credo siano più discutibili di quello che sta succedendo nelle ultime settimane è il silenzio di Fini su tutta questa vicenda. Non entro nel merito del problema delle cucine, della trasferta a Monte Carlo o meno, perché sì. Come dicevi tu prima, alcune cose in questa inchiesta del giornale traballano, esatto, notevolmente. Certo che Fini non ha dato delle risposte e soprattutto tace. Mi ricordo un po' il Berlusconi di un anno fa, all'epoca di Noemi, sì, no? Sì. Quando gli fece. Però è vero che oggi ha incontrato l'avvocato Bongiorno e trapelano alcune cose da questo incontro, le risposte quando sarà il caso, magari poi succederà, sì, tra qualche settimana. Che esatto, però mi sembra di aver capito che, almeno dal comunicato che ha fatto il suo portavoce, mi sembra di aver capito che Fini darà le risposte quando lo riterrà opportuno e semmai le darà in tribunale. Io credo che lui farebbe bene a dare le risposte subito e a darle ai giornali, esattamente i giornali che lo attaccano, i giornali che non lo attaccano, i giornali che si limitano a fare cronaca. Certo che il suo silenzio è ecco, è Finiani, terribile. Ai Finiani che dicono c'è un'eccessiva concentrazione o i giornali stanno spulciando nella vita, io francamente queste critiche non le capisco. Oggi certamente fa parte del gruppo che non è il gruppo Mondadori, il gruppo Recesso, un'altra cosa, cioè non è che ha dei pregiudizi nei confronti di Fini. No, semmai dei pregiudizi positivi, se ti devo dire la mia posizione personale. Anch'io devo dire. Però... Per cui voi però fate, da questo punto di vista, fate cronaca, insomma, né? Cioè, voglio dire, raccontate i fatti di cronaca. Dunque, a chi tra i finiani, ce ne sono molti, in queste ore, nei giorni scorsi, continua a dire, al di là del giornale, c'è un'eccessiva concentrazione sulla vita privata di Fini, come risponde il direttore di un giornale popolare come Oggi? No, risponde in un modo molto semplice, e riallacciandomi a quello che ti dicevo prima, queste persone sono evidentemente in difficoltà perché il capo non parla e quindi sono costrette ad attaccare i giornali che attaccano il capo. È possibile che ci sia, come si dice, un accanimento terapeutico di Feltri e anche di Belpietro, insomma, questo insistere, andare a intervistare, manca solo che, come scrivo, che facciano la macchina della verità ai titolari del mobilificio Castellucci, insomma, sì, voglio dire, sì. Questa cucina è a Roma. C'è un po' di accanimento terapeutico. Sì, però un interesse c'è. Se un giornale popolare come Oggi, no, pubblica, certo, in copertina una cosa di questo tipo, non è che lo fa, ma per, certo, motivi politici, lo fa perché no, evidentemente loro, nei bar, loro, nei bar, loro, nelle case si parla della famiglia Tulliani, diciamo loro, la verità. Esattamente, cioè i colleghi del giornale di Libero non fanno altro che sostenere... Un attimo, Casa Gaucci, Umberto, scusa. Sì. Tanto non ce la faremo, lo so, siamo sfortunati, deve essere un orario sfortunato. Niente da fare. Io sono disperato perché lo sento il pomeriggio e mi dice sì, chiamami, dopodiché sparisce o ha un altro telefono. Ma sì, l'ho sentito 2 o 3 volte, non oggi, 2 o 3 volte, sì, chiamami, non c'è problema. Dopodiché, e poi si nega. No, ma non è che si nega, probabilmente, sai, la casa a Santo Domingo, uno di questi giorni chiamo Luce e mi faccio spiegare come è fatta la casa a Santo Domingo, perché probabilmente il telefono è distante, vanno al mare, vanno a mangiare fuori. 30 secondi, torniamo subito. Siamo in collegamento con Umberto Brindani. Dove ti trovi, Umberto? Sono a Milano, a casa, al lavoro. Ah, sei l'unico a essere a Milano insieme a me. Sai, in agosto si sta bene a Milano. Benissimo, dai. Benissimo. Direttore di oggi, però voglio chiedere un'altra cosa, perché al di là della foto, voi avete paragonato un tuo giornalista molto bravo, che si chiama Mauro Suttola, credo, in un articolo, la vicenda di Fini Tulliani a la vicenda di Mussolini Petacci. Sì, sì, no, per la verità... Non è un po' eccessivo, no? No, devo dire che ho già ricevuto una mail di un lettore indignato per questa cosa, però non c'era nessun tentativo, come dire, di dire cose malevole. Semplicemente c'è un fatto, una curiosità storica, e cioè che, come risulta dai diari di Claretta Petacci, che fu l'amante del duce, il fratello di Claretta ebbe, diciamo così, dei favori da Mussolini grazie alle pressioni costanti di Claretta stessa su Mussolini. Ecco, insomma, c'è qualche analogia, niente di più, insomma, sono cose che sono state pubblicate, che sono sui libri che Suttola ha scritto, che ha pubblicato da Rizzoli, per cui non è uno scoop questo qua. No, no, certo, però certo, il paragone, insomma, tra Mussolini Fini e Petacci Tulliani, qualcuno lo potrebbe prendere come un... No, una... Se tu mi avessi fatto questa stessa domanda qualche anno fa, il paragone tra Mussolini e Fini, ah, avrei sì, fatto insomma, questo scandalo, no? A lui, lui non si sarebbe scandalizzato sicuramente, esatto. prima di sostenere che Fini, no? Quando sosteneva che Mussolini era uno dei più grandi statisti, no? Beh, insomma, la sua storia politica nasce da lì e credo che lui non l'abbia mai rinnegato. Beh, insomma, ha cambiato idea, si è evoluto, è maturato. Chiedilo a Storace, se non l'ha rinnegata. O ad Assunta Almirante. Grazie Umberto. Grazie a te, buon lavoro. 19:50 800 24 00 24. Ascoltatori, no, chi abbiamo? Tiziano da Brescia, eccoci qui. Tiziano, buonasera, come sta? Io bene, lei sta bene? Non c'è male, sì. Bene, visto che c'era troppo miele in trasmissione... Oh. E casualmente peperoncino adesso, voglio il peperoncino, no, sangue molto, anche perché mi sento sempre molto in imbarazzo con un mago del microfono come lei. No, ma non si deve sentire in imbarazzo, Tiziano. Ieri un ascoltatore da Bologna, chi era, Fabio, ha fatto l'inferno su una mia frase, una frase in cui dicevo, mai detta in realtà, sul fatto che non si poteva sostenere il fatto di astenersi. Ma chi l'ha detto? Io non ho mai detto una cosa di questo. La mia argomentazione era quella questa. Sono un ascoltatore da tanti anni ormai della Zanzara, perché ritengo sia un buon format il vostro tipo di programma, il fatto che possiate anche lasciar parlare me, che non ho cose simpatiche da dire, in quanto ritengo che ultimamente mi sembra che la stia mettendo molto sullo show. Se devo fare un paragone, se prima era un TG1... TG1, TG1, è un paragone, ho capito. È un paragone, è un TG1, mi sembra diventato il TG1 di Manzolini, nel senso più varietà, più frivolezze. E magari... Guardi, il TG1 di Manzolini viene attaccato per altre cose, non per essere frivolo in realtà. No, ma io stavo criticando la Zanzara in questo momento. Sì, no, ho capito, però il TG1 di Manzolini viene attaccato non perché sia frivolo, ma perché omette le notizie, eccetera, eccetera. Comunque, al di là di questo, guardi, io le posso dire che l'alleggerimento, si può affrontare l'attualità in tantissimi modi. Noi scegliamo dei momenti in cui magari siamo un po' più seriosi, con qualche incazzatura sulla politica, qualche piccolo ragionamento, eccetera, eccetera. E qui c'è Valeria Bernardi che dice: io voto per pomeriggio 5. Si figuri un po', insomma. Qui c'è gente che fa il tifo per una trasmissione in stile pomeriggio 5. Io no, devo dire la verità. Io no, però ci si potrebbe avvicinare. Però le dico: si può affrontare l'attualità nei modi più disparati. Noi cerchiamo di farlo ogni tanto con qualche discussione semiseria e poi... A me piacerebbe più che lei prendesse qualche posizione un po' più decisa e non... Ma lei vorrebbe che io fossi neutrale? No, io, a parte, io non sono neutrale per niente, Tiziano. Lo so che non è neutrale. No, lei vorrebbe che io diventassi o che prendessi delle posizioni anti-berlusconiane. Diciamo la verità, Tiziano. Mi va bene che attacchi Berlusconi, Bersani, chiunque nei momenti in cui sono attaccabili, però nei momenti... Ma io questo faccio. Che mugugno, che mugugno. Da dove nasce? Ho scritto una mail dove forse non l'avrà mai letta, dove pensavo che si stesse preparando il terreno per Mediaset. In realtà ci vado sul serio, ma a fare un'altra cosa, insomma. Vabbè, Tiziano, ma insomma non è questo il punto, ma che c'entra poi questa cosa qua? Perché questa dietrologia? Che c'entra prepararsi il terreno per me? Ma secondo lei io ho bisogno, ma secondo lei Tiziano, io ho bisogno di cercarmi un altro lavoro? Io faccio il lavoro più bello del mondo. Ma lo so. E allora, perché devo cercarmi un altro lavoro? Questo lo invidio anche un po'. E allora, perché devo cercare un altro lavoro? Devo cercare credito nei confronti di qualcuno? Lo stesso lavoro, ma più pagato magari. Ma no, ma lo stesso lavoro dove? Non mi risulta che Mediaset possieda una radio. Sì, è una radio che però fa altre cose. Insomma, Mediaset, poi in realtà nemmeno Mediaset, Mondadori. No, per l'amor di Dio, legittimo, però siccome si sa che gli stipendi di Mediaset sono i più pagati, pensavo si stesse preparando il terreno. Ho capito, ma questa qua è pura dietrologia. Che significa prepararsi il terreno? È una cosa ridicola che non ha senso. Perché non è ha senso. Da un prendere certe posizioni all'inizio. Ma lei ascolta solo 5 minuti. Ascolto da quando. Sì, ma non ascolta te. Ascolta male. Guardi, ho cambiato io il modo di no, Tiziano, ma ognuno ha la propria sensibilità, la sua sensibilità. Io non rinnego nulla, naturalmente. Non è questo il punto. Non volevo dire che lei ascolta male. Magari si ascolta la radio per 10 minuti, come giusto che sia, per un quarto d'ora. In quei 10 minuti, quarto d'ora, uno dà l'impressione di essere berlusconiano, più filo berlusconiano. Magari il quarto d'ora dopo ne dice di tutti i colori su Berlusconi o su qualcosa che ha detto Berlusconi, come mi accade frequentemente. Per cui il punto è molto semplice: non devo accreditarmi nei confronti di nessuno. Ha capito, Tiziano? Cioè, non glielo ho chiesto. Non ho bisogno di. No, lei ha detto. Pensavo che lei si stesse preparando il terreno per, ma qui non c'è da prepararsi il terreno nei confronti di nulla. Io sto magnificamente qui, è la cosa più bella del mondo, faccio il lavoro più bello del mondo e non vorrei mai lasciare questo posto, mai. Sì, quello che chiedevo io era, ma non per Berlusconi, per chiunque. Poi magari mi cacciano. Che le sue posizioni fossero più decise, visto che è un. Ma più decise su che cosa? No, Vino Leader, non esageriamo, insomma. L'ascoltano in tanti, Sì, d'accordo, ma insomma, opinion leader mi sembra una parola grossa, Tiziano, mi fa sempre paura opinion leader. Lei riesce a smontare facilmente una persona al telefono se decide di smontarla, quello non sono sicuro. Ma insomma sì, però ogni tanto la ringrazio qualcuno... comunque della delicatezza che ha usato nei miei confronti. Grazie Tiziano, vede che siamo partiti col peperoncino e siamo arrivati al miele pure qui stasera. No, scherzo. Non mi sono sentito bastonato, ecco. No, ma io guardi che non bastono nessuno, se non quando è il caso di bastonare. L'ascoltatore di ieri francamente era abbastanza irritante, devo dire la verità, forse ho anche sbagliato a arrabbiarmi troppo, però era irritante perché non si capiva quello che voleva, facevo un ragionamento molto contorto. A me non piacciono i ragionamenti contorti, incomprensibili. Maurizio da Roma, grazie. Ciao, Maurizio, tutti. Buonasera. Ciao, buonasera. Dica. Volevo intervenire sulla Pivetti. Sì. Sono dipendente di una compagnia petrolifera. Lei è dipendente di una compagnia petrolifera? Sì. Sì. E quindi abbiamo esperienze con delle persone che vengono dall'estero. Vabbè, che c'entra questo con l'amministrazione locale? C'entra niente. C'entra che praticamente è libera da ogni pensiero e quindi può operare forse in maniera non uniforme al territorio. Sì, per carità, ripeto Maurizio, può darsi che una persona che venga da fuori come assessore a Reggio Calabria sia così, abbia la bacchetta magica e dunque non stia a sentire le piccole consorterie locali. Questo può essere un ragionamento, non c'è dubbio. Però noi francamente, con le persone che vengono dall'estero e hanno una marcia in più, una sprint o qualcosa che magari non è legato le consuetudini No, no, ma ho capito, territorio. Anche se secondo me appunto una compagnia petrolifera e l'amministrazione locale a Reggio Calabria una piccolissima differenza ci può essere. Insomma, lei capisce cosa significa amministrare una città come Reggio Calabria con tutti i problemi che ci sono. Uno dovrebbe stare piantato su una sedia come assessore dalle 8 di mattina fino alle 10 di sera. Invece qui parliamo di assessore pure a Berceto, di viaggi che ci saranno sicuramente da Milano fino a Reggio Calabria, poi forse presenza in televisione, ma di che stiamo parlando? Maurizio, questa è la sostanza. Io penso che gli stranieri o quelli che vengono a lavorare nella sua compagnia stiano lì dalle 9 di mattina fino alle 7 di sera, 5 sì, giorni però su 7. Non contano le ore che si lavora, no, vabbè, ma io dico piantati sulla sedia, nel senso, certo. Insomma, ci siamo capiti, no? Sì, ci siamo capiti. Appunto. Comunque, la prima volta che riesco a intervenire. Bene, È soddisfatto? È soddisfatto? Sì, soddisfattissimo. Non ci credevo. Senta Maurizio, però secondo lei uno può essere biassessore? Perché questo è un caso abbastanza unico, eh? Assessore a Berceto, provincia di Parma, assessore a Reggio Calabria. Adesso. Sì, ma Berceto è un... ho capito, ma sempre biassessore sei. Sì, ma doppio incarico, la novità del doppio incarico. Di base. Come no? L'assessore è come se fosse un mini governatore. Diciamo. Comunque tutta la giunta e comunque le decisioni dipende dal sindaco, l'assessore propone, fa diciamo delle cose in funzione anche del sindaco. Sì, a casa mia l'assessore è una persona importante. Io ho sempre pensato che l'assessore in quel settore fosse una persona importante e credo che fare l'assessore a Berceto, che non so, avrà pochi abitanti sicuramente, a Reggio Calabria e poi altre cose. Insomma. E siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24, ultima mezz'ora della zanzara di questa sera. Vi voglio caldi, bastonate un po', troppo miele questa sera. Sto scherzando naturalmente, la 7. Alla Camera ardente al Gemelli l'omaggio delle istituzioni e della politica a Francesco Cossiga. Il presidente della Repubblica Napolitano lo ricorda come un grande statista. Domani in Sardegna i funerali privati. Per Bossi, Fini e la sinistra hanno paura, una paura boia del voto anticipato, ma Napolitano aggiunge non troverà maggioranze alternative. Appello di Berlusconi e Finiani moderati, non tradite gli elettori. Ancora scintille sulla casa di Monte Carlo, il portavoce del presidente della Camera definisce fantasie le notizie del giornale su una visita di fine a Natale nel Principato. Feltri replica, c'è un testimone attendibile. Una donna incinta muore in uno scontro frontale vicino Como. I medici del pronto intervento riescono a far nascere la piccola che portava in grembo. Le condizioni della neonata sono stabili, ma gravi. Un curioso pacchetto di viaggio per la Polonia. Il volo, la visita ad Auschwitz, ma anche la possibilità di ricorrere alla chirurgia estetica a prezzi che sono la metà di quelli italiani. Parla Federica Pellegrini. L'azzurra, oggi la più forte nuotatrice del mondo, annuncia... Alle Olimpiadi di Londra voglio vincere 4 ori, poi mi ritirerò per fare la moglie, la mamma e la casalinga. Va bene, in attesa delle decisioni di Federica Pellegrini sentiamo anche i titoli del TG5. Napolitano e Berlusconi, Fini e Schifani, Andreotti, Letta, il cardinal Bertone, la lunga sfilata degli uomini delle istituzioni che hanno reso omaggio a Francesco Cossiga, domani a Sassari i funerali privati. Anche tanta gente comune ha voluto salutare il presidente per l'ultima volta. Una folla commossa ha reso omaggio non solo allo statista, ma anche all'uomo Cossiga e tra loro molti concittadini della sua Sardegna. 21enne incinta, al 9° mese muore in un incidente stradale nel Comasco. I medici la fanno partorire comunque. La neonata è viva ma è grave. Il proprietario del ristorante in cui morì un ragazzo celiaco ed allergico dopo un alimento proibito ha chiesto il conto. Il padre, siamo agghiacciati da tanta barbarie. Licenziato in tronco, lo stimato primario di ortopedia dell'ospedale di Trani, prossimo alla pensione, non aveva mai preso la specializzazione. Attenti ai telefonini lasciati sotto il sole o usati con le mani bagnate o sporche di sabbia. D'estate si guastano molto di più. Tutti quanti fan ballare, lasciandomi a guardare. Che rabbia mi fa, che rabbia mi fa. Troppo miele questa sera, troppo miele. E allora, è stato definito oggi da Il Giornale, da Massimiliano Parente, il DJ dall'animo liberale che spopola nella Radio Rossa, Radio Rock. Emilio Pappagallo, buonasera. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Aiutami tu questa sera, c'è troppo miele. Troppo miele. L'ascoltatore di prima era partito bene. Lo so, poi alla fine l'ho smontato. Perché lo sai cos'è, questi ascoltatori? Vogliono in realtà, loro vorrebbero che tu dicessi quello che pensano loro, tutti. Lo so, quando ci avviciniamo un po', quando ci avviciniamo poi lo scontro muore. Perché ogni tanto ci si avvicina anche all'ascoltatore più, no? Più duro, magari trovi qualcosa in comune. Forse ho sbagliato io. Beh, però devo dire, guarda, se ti può consolare, che dopo l'uscita di questo articolo bellissimo di Massimiliano sul Giornale di oggi, mi sono arrivati dei commenti feroci sul mio Facebook, sulla posta elettronica, dappertutto. Quindi, non lo dire a me. Allora? Ecco, di tutti i tipi. Per proprio, esempio? Eh? Per esempio? Ma guarda, c'è un ascoltatore, ce l'avevo qui davanti, tra l'altro... Allora ricordiamo che Emilio Pappagallo lavora a Radio Rock, che è una radio che si sente a Roma e che fa la mattina, programma della mattina, dalle 6 in poi, no? Morning show, mitico morning show dalle 6 in poi, o sbaglio? Dalle 7 alle 10. Dalle 7 alle 10, più o meno, più o meno dalle 7. Musica e? Musica e chiacchiere, la musica è una componente, a dispetto poi la radio, cioè Radio Rock, da l'idea di una radio molto musicale, e infatti la musica è importante, però è una componente, no? Non è. Ma perché quello è il titolista? Radio Rossa, perché storicamente Radio Rock è una radio rossa, no? Ma sai, il rock adesso è Radio Rossa, insomma, il rock si accosta quasi sempre. Se si deve accostare alla politica, si accosta alla sinistra, no? Sì. Il rock di solito questi luoghi comuni, no? Della ribellione. Quindi, prima sentivo che facevi ascoltare la cosa lì degli Tfiba. Sì, da lì, come fai a dire una cosa del genere? Fantastica. Non so se è peggio la sfuriata dei Tfiba sul palco o la proposta di Dalì. Sì, pure secondo me siamo sullo stesso livello, livello di strozzate, tutte e due. Sì, assolutamente sì. Vedi come sono le etichette, vedi come sono le etichette. Anche tu sei abituato alle etichette, naturalmente, che ti danno, no? Qui io negli ultimi giorni che cosa ho fatto? Ho difeso, una parola grossa, difeso Morgan, provocando pure una reazione di Mina sulla prima pagina della Stampa contro le follie di Zai e di Tosi, che gli vogliono proibire di cantare a Verona, addirittura Zai in tutto il Veneto. E poi adesso mi tocca difendere l'Itfiba con quello che dicono sul palco, con queste cose inutili, la barra, la P2, la P3, di cui non capiscono assolutamente nulla, zero, non sanno niente di mafia, di dell'utile, non sanno nulla, non sono totalmente ignoranti su questo. No. Ma poi io penso, Giuseppe, che ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro. Ma cioè, sì, sì. Chi canti, cioè sei il leader, adesso li ho avuti anche tra l'altro ospiti in studio di recente, cioè sei il leader di un grande, di importante gruppo della scena rock italiana. Fai il cantante, non rompere i coglioni con queste cose. Scusi, si può dire coglioni? Come no? Qui la zanzara si può dire tutto. Si può dire tutto. Cioè, non perché devi metterti là la P2, la barra? Forse c'è paraculescamente anche un po', no? Tu sai che quel pubblico ama quel tipo di proposta, dico, quindi mi va bene. Però se devo dire la mia, mi sembra una cazzata. Poi il proibire, ecco, io sono un antiproibizionista totale, io non proibirei nulla nella vita, quindi proibire... È una cazzata ancora più grossa, insomma. Sì, lo scontro... Ci vuole il contraddittorio. Da lì, quale contraddittorio vuoi avere con il Litfiba? Già non lo si può avere su quel piano lì, perché insomma, è difficile. Immagini Litfiba, concerto dei Litfiba... In cui c'è il contraddittorio. A metà concerto e sale sul palco Da lì, contraddittorio, tutti seduti... Sarebbe bellissimo. Cosa ti immagini da lì? Mamma mia. Comunque, gli ascoltatori dovrebbero fare gli ascoltatori. Adesso farò incazzare forse anche i tuoi. Però dovrebbero fare gli ascoltatori, cioè dovrebbero ascoltare. Ognuno deve fare, no? Quello che. Ah no, devono anche arrabbiarsi, come no? No, possono fare quello che credono. Però a me fanno un po' sorridere questi ascoltatori che ti contestano e poi ti scrivono, non so, sarà capitato anche a te sicuramente, che non ti ascolteranno più. Cioè hanno bisogno di dirtelo. Sì, è così. Ti dicono: oggi Cruciani lei ha superato il segno. Io da oggi non l'ascolterò mai. Oggi più. Pappagallo, basta. Oggi Radio Rock, mai più. Quanto ti capita? Quante volte ti capita? Sempre. Tutti i giorni. Cos'è che hai risposto? L'ha scritto Parette. Che cos'è che dice? Bene, sono contento di perdere un ascoltatore perché tre ne prendo. Tu che puoi rispondere a uno che ti dice da oggi non ti ascolterò più, sti cazzi. Cioè, per ogni deficiente come te che perdo, ne acquisterò tre buoni. Voglio dire. Poi in realtà lui resta attaccatissimo. Anche perché cosa può spingere una mente malata a mandare un messaggio del genere? Farselo leggere poi in radio, no? E si arriva a dei livelli di perversione inaudita, quando addirittura qualche ascoltatore scrive siamo 42 ascoltatori, gruppo di ascolto, sì. E non ne ascolteremo più nessuno. Allora dice, cazzo, 42 ascoltatori ho persi in una botta sola, sono rovinato. Cioè, queste cose invece poi ti accorgi che non è così, via! Datemi un martello, che cosa devo fare? voglio essere cattivo con Di Pietro, che abbiamo avuto nostro ospite oggi. Lui dice che non voleva essere cattivo con Cossiga, però Cossiga con lui è stato non solo cattivo, insomma, tremendo, direi. Famoso cretino Di Pietro, io gli voglio bene, sa perché gli voglio bene? Perché è cretino. Uno che è magistrato si fa dare da uno che fa lavorare la moglie una Mercedes gratis, che si fa dare 100 milioni e quando arriva l'ispettore del mistero le restituisce in fretta una scatola di scarpe. Come lo vuole finire? Un ladro, un cretino. Ma io voglio bene, cretine. A Di Pietro voglio molto bene, siccome è sempre più cretino. Adesso sta diventando presuntuoso, però. Ma lo sa che siamo arrivati al punto che Di Pietro crede di essere un uomo politico? Che noia mi dà. 30 secondi, torniamo subito, non prima di avervi dato questa notizia. Sulla casa di Monte Carlo, Meretto, che è un imprenditore che il giornale ha intervistato nei giorni scorsi, anche oggi, smentisce l'intervista al giornale. Abbastanza strano, diciamo, dei virgolettati, eccetera. Smentisce di aver detto al giornale, dunque, di aver visto Fini, di averci parlato, la scorta, eccetera. Eccoci, 20 e 11, 800 24 0024, da Terni, Emilio Pappagallo, vicino Terni forse. Vicino Terni. Vicino Terni, in campagna vicino Terni. Ma stai lavorando in questi giorni? Sto facendo il pendolare in questi giorni. Terni. Parto la mattina presto alle 6 da qui, dalla campagna. Vai a Roma. Arrivo a Roma, trasmetto e torno indietro. Emilio Pappagallo, Radio Rock, dalle 6.30, 7 la mattina fino alle 10, definito dal giornale il DJ dall'animo liberale. I titoli sono sempre i titoli, che spopola nella radio rossa. E vabbè, dove andiamo? Ascoltatori, sentiamo se c'è un po' di sangue. Riccardo, provincia di Chieti. Pronto? Sì, dica. Buonasera Cruciani, la ringrazio per l'ospitalità, sì. Recentemente anche mi ha ospitato. Io non lo dica, però se no sembra che andiamo in onda sempre le stesse persone. C'è sempre un mese di distanza. Almeno un mese, no, saranno due mesi almeno. Comunque, vabbè, volevo commentare quello che ha detto Telesi, che purtroppo non c'è più in radio ora. Pare che debba lavorare. No, su Cossiga, sul fatto che lui non si esprime in maniera negativa adesso su Cossiga. Però io ho avuto l'impressione, può darsi che sia una mia impressione soltanto, che invece avrebbe voluto dire qualcosa di negativo su Cossiga. Se così fosse, vorrei sapere cosa ne pensa lei. Ma di che? Di cosa? Su che cosa? Mi scusi, Riccardo. Sul fatto, sulla posizione di Telese, ma anche di tante altre persone. Ma io non so quale sia la posizione di Telese, non ce l'ha una posizione su Cossiga, Telese. Sulla mia impressione. Sull'impressione, cioè, che lei vuole che io dia giudizio sulla sua impressione, che ha avuto sull'impressione. Secondi, mi ribrucio. Riccardo, abbia pazienza. Io ho sentito diverse persone che si astengono dal criticare in maniera negativa Cossiga, anche se avrebbero voluto farlo. Questo secondo me è un atteggiamento buonista. No, questo può darsi che ci sia quando una persona muore, Riccardo. Purtroppo no, anche quelli anche quando muore devono dirlo, perché sono d'accordo con lei questa sera. Gli hanno detto che è un assassino, che è un sono d'accordo con lei. Invece abbiamo sentito un coro lo devono dire subito. Questa è ipocrisia, e chiunque si comporti così, sia che sia l'ascoltatore comune della radio, sia che sia il giornalista, sia che sia l'opinion maker, devono essere sinceri. Dunque, secondo lei, quelli che hanno scritto su Facebook, su qualche muro, eccetera eccetera, Cossiga, boia, assassino, anche il giorno hanno detto quello che pensano. Hanno detto quello che pensano. Lasciamo perdere quello che io penso di loro, però hanno detto quello che pensano. E cosa pensa di loro lei? Cosa pensa di loro? È lo stesso che hanno scritto loro di Cossiga, io penso che sono degli imbecilli, come minimo. Sì. Siano imbecilli, siano assassini, loro, di assassini, loro. Però lei dice, c'è tanta gente che magari pensa tutto il male possibile di Cossiga, però non lo dice. Pappagallo, però ha ragione Riccardo. Meno male. Mi fa piacere che sia ragione. Come Di Pietro, che è un personaggio delizioso, così che sia stato, Di Pietro ancora, un personaggio deliziosamente radiofonico. Cioè sono due personaggi, secondo me, legati dal fatto che, soprattutto l'ultimo Cossiga, quello degli ultimi 20 anni, io lo trovo divertentissimo, quindi no, però Riccardo ha ragione quando dice che per carità, poi quando Di Pietro questa sera ha detto vabbè, su Cossiga non voglio parlare perché è appena morto, insomma, ha fatto capire che non è che ci fosse questo grande feeling, insomma. D'altra parte, uno che ti dice sei un cretino insomma, sicuramente. No, ha detto in un modo, secondo me era quasi affettuoso il modo in cui l'ha detto. Sì, però poi Cossiga era un personaggio particolare, magari in pubblico diceva delle cose, poi si pentiva, magari ha telefonato a Di Pietro dicendo Traffico, torniamo subito. Che non si possa dire quello che si pensa, quello che si è sempre detto, che si è sempre pensato su una persona solo perché è morta due giorni prima, la trovo anche abbastanza folle. Ipocrita, sì. Eccoci qui, 20 a 16, 800 24 00 24, ultimo spezzone della zanzara. Alessandro, provincia di Catania, eccoci qui. Sì, sì, buonasera. Prego. Prego, che voleva... Entri, vada. Voleva un po', è che so, da un po' di tempo che sono al telefono. E vabbè, succede, che devo fare? No, no, assolutamente, non è colpa sua. No, magari è colpa mia, non l'ho chiamata prima, Alessandro, che devo fare? No, le altre colpe, non queste. Che colpe ho? No, diciamo così, introduco il sangue che voleva disperatamente. Vada col sangue. Non volevo deluderla stasera. A proposito delle... secondo il mio punto di vista... secondo il suo punto di vista? La sento, già il tono prelude a... per quanto riguarda... Lei parte male però, Alessandro, mi deve essere più veloce, No, assolutamente, per quanto riguarda le notizie che gli spettatori vogliono sentir dire da parte sua o magari da parte di chi detiene il microfono e quindi ha un potere, fra virgolette. Sì. Io sostanzialmente sono un appassionato degli spin doctor e di coloro che... hanno la possibilità di liftare le notizie. Riccardo mi scrive: pappagallo è presuntuoso e irritante, ho smesso di ascoltare Radio Rock da 3 anni perché trovo insopportabili i suoi conduttori. Emilio, questo è uno di quelli che sta ogni mattina lì collegato con te. Non è vero niente. Uno mi ha scritto oggi: io non ti sopporto, però ascolto sempre per sentire ogni giorno quante cazzate dici. Alessandro, allora... Allora, io credo che effettivamente è vero che lei non è un opinion leader, è un non opinion leader. Perché da quello che ho ascoltato fino adesso... Un non opinion leader è nuova questa qua, che vuol dire? Un non opinion leader, certo, le dico anche chiaramente... mi spieghi, perché altrimenti non si capisce nulla. Assolutamente. Partiamo da quando c'era in onda Telese con Di Pietro. Quando Telese, quando si continuava a parlare di Fini e della sua casa di Monte Carlo o chi che sia, eccetera, eccetera. Quando Telese le contestò il fatto di non parlare di Verdini, lei chiaramente cambiò discorso. No, ma Alessandro, volta. Se io parlo mezz'ora di Verdini, qui si annoiano tutti. Ascolti, è una vicenda complicata quella lì, la Banca d'Italia, i 60 milioni di euro, eccetera, eccetera. Guardi, vuole sapere come la penso? Glielo dico subito. Secondo me è incompatibile. Alessandro, adesso mi faccia parlare però. È incompatibile il ruolo di coordinatore di un partito e di presidente di una banca. Vuole che io lo dica molto chiaramente? No, questo penso. Per cui di che parliamo? Ogni giorno di Verdini dobbiamo parlare? Ci facciamo due palle così? Abbia pazienza. Lei mi è troppo lento, però aspetti un attimo lì. Collegamento con Mykonos, Sabina Negri, buonasera. Buonasera a tutti. C'è un vento stupendo, un mare ancora di più. Se mi sentite, sono contenta. E come no, la sentiamo molto bene, molto bene. Altro che sottofondo. Sabina Negri, conosciuta per carità anche per altre cose, però ex moglie di Roberto Calderoli, diciamo la verità. Certo, Pappagallo, la conosci? La conosci la signora come Negri? Come no, non personalmente, però. Insomma, purtroppo, tu dici, purtroppo non personalmente. È una bella donna, signora Negri. Ma sì, me la cavo, dai. Sì, ancora se la cavo, ancora, per carità, non voglio offendere. Ancora, ma che brutta parola. Lo so, ha ragione, mi è scappata. Chiedo venia. Mi perdona? Perdonato per grazie. Una volta. Senta, partiamo con una musichetta, perché qui la questione è molto semplice. Ho letto l'altro giorno e mi sono poi ricordato che effettivamente la notizia era già uscita, di una cosa straordinaria. Stiamo parlando della tenuta nel Bergamasco, se non sbaglio, del suo ex marito, cioè il ministro per la semplificazione Calderoli. Non manca più nessuno. Sentite, agenzia ADN Cronos di ieri, 17 agosto. Calderoli dispone di un ampio bosco nel Bergamasco e non si fa mancare nulla. Una tigre nel passato, ma ha dovuto rinunciarvi perché il tigrotto, una volta cresciuto, gli ha divorato un cane. Adesso a casa Calderoli vivono stabilmente due lupi. Ogni estate però nella tenuta del ministro arriva maggiore, un orso di 2,5 quintali di proprietà di una parente, che la porta a passare le ferie al fresco nel bosco sulle Orobie. Non manca più nessuno. L'orsa, pare, non è aggressiva, ma essendo un animale da 250 kg ha un appetito robusto. Per sfamarla i calderoli si sarebbero accordati con un ristorante pizzeria vicino a casa, che cede loro gli avanzi affinché possano rifocillare il plantigrado. Cosa ghiacciante. Nella tenuta vivono anche dei cani, per la precisione quattro pastori del Caucaso, Barabba, Calzino, Nerone e Bianca, che hanno appena dato alla luce una dozzina di cuccioli. C'è anche un pony, vabbè questo è normale, Fabio. Però c'è stata una scimmia, Cito, era un maschio, un'aquila reale, Cecco, un pappagallo, un enorme aramacao che ha distrutto le tende del salotto, che è l'animale che in assoluto ha fatto più danni in casa Calderoli. Svariati pesci, tra cui dei lucci, mica pesciolini quelli che si trovano nei negozi, dei lucci, che hanno nuotato per qualche tempo in una piscina gonfiabile nel giardino del ministro. Poi c'era una volpe che si chiama Alfonso, cresciuto, c'era o c'è ancora? Non lo so, adesso lo chiediamo fra poco a Sabina Negri se ne sa ancora qualcosa, perché magari non frequenta il marito da tempo, l'ex marito da tempo. Cresciuto in casa Calderoli, ripeto, la volpe Alfonso, dopo che il padre del ministro, un appassionato cacciatore, vabbè insomma era evidente, aveva ucciso la madre durante una battuta. Il volpacchiotto è cresciuto allattato dai cani. Anche Alfonso, che ricordiamo perché potete esservi persi, una volpe ha dato qualche grattacapo al ministro, che pare sia stato morsicato al viso dal canide. Poi ci sono vipere autoctone, tanti topi, gli unici animali cui si dice che il ministro ogni tanto tiri con il suo fucile. Beh, insomma, e poi l'immagine di Calderoli che spara i topi è eccezionale. Signora Negri, che succede? Che succede? Che succede? Mi spieghi un po' questa questione, questa vicenda della tenuta aerobica di Calderoli con tutti questi animali. Pare c'è stata anche un'ispezione della Guardia Forestale per vedere, insomma, la questione della tigre, no? Ma tutto questo è successo alla fine del nostro matrimonio, perché all'inizio bastavo io come tigre in casa. Ah, beh, poi certo. Ha dovuto consolarsi con delle altre. Insomma. Lei dice: è passato da lei agli altri animali per consolarsi. Certo. Ma è vero che ha questa passione così sfrenata per gli animali? Questa ce l'ha sempre avuta. Infatti noi un po', cioè, avevamo da dire, no? Da discutere su questa cosa qui, perché io dicevo: se sono feroci, sono feroci. E d'altronde bisogna abituarsi, è anche abituato lui a vivere con altri animali feroci. In che senso? Mi scusi, mi spieghi questa cosa? Nel senso che questi politici non è che sono proprio zuccherini, ecco. Ma insomma, fino a quando c'era lei, cosa c'è? Quali animali c'erano in casa Calderoli? No, guardi, quando c'ero io c'erano la tigre, due... La tigre, lei l'ha mai vista, questa famosa tigre? No, c'erano due mastiff, che erano due cani piuttosto grossi, eccetera, che poi a loro volta hanno figliato, quindi c'erano... Vabbè, fino a che siamo coi cani, va bene, insomma. Ma i lupi? I lupi sono arrivati assolutamente dopo, quando ha preso questa nuova casa fuori in campagna e si è così riempito di animali, perché lui aveva questa passione, perché io ricordo, perché io sono una memoria storica della Lega nonostante la mia giovane età, sottolineo, mi ha bacchettato, sì. mi continua a bacchettare. Ha ragione, la prendo. Pappagallo, sono stato scorretto, ho sbagliato tutto. Una donna sull'età diventa cattiva. Lo so, no, si incattivisca, a me piace, la cattiveria. No, io ricordo che c'era il circo della Padania, perché a un certo punto c'era questo circo, no? Che andava un po' male, in fallimento. Il circo della Padania, addirittura. Si è inventato di essere il circo della Padania, per cui ha messo fuori tutti questi cartelloni, noi siamo il circo della Padania. E chi se l'ha inventato il circo della Padania? Loro. Loro chi? I leghisti? I circensi. Ah, e hanno invitato Bossi li ha autorizzati, e lì c'era tutto questo rito di andare al circo della Padania. A un certo punto però è fallito il circo della Padania. E Calderoli che ha fatto? Voleva ritirare gli animali. Addirittura, ma se le prese alla fine o no sti animali? Non so, io sono andata via prima, guardi, non mi faccio dire la fine. Meno male per lei, dice. No? La pellaccia l'ho portata a casa. Senta, ma pare che qui voglia intervenire addirittura, vedo dei veterinari, gente che si è messa in moto, perché insomma credo che tenere dei lupi a casa pare che sia vietato, una cosa di questo tipo. Però adesso mi dica la verità, secondo lei quanto c'è di vero in queste cose? Ci sono molte esagerazioni, cioè lui, veramente questa tenuta aerobica e popolata di animali anche, insomma, che non si potrebbero tenere, secondo lei? Io non credo che sia così sovraffollata, ecco, di animali, eccetera. Però effettivamente credo che questa sua voglia di stare, di convivere, di portarsi nel giardino, nel recinto di casa, lui l'abbia realizzata, insomma, credo anche con grosse soddisfazioni, visto che io glielo vietavo, dopo si è sfogato. Lupi, marsicani, scimmie, orsi, cammelli, una tigre, beh, ma insomma queste sono le esagerazioni che, sì, che però poi... C'è ecco l'aquila, questo è vero, perché questa era una cosa che riguardava addirittura la sua età adolescenziale, ce l'avevano in casa questo aquilotto quando erano ragazzini, erano otto fratelli, tutti giovanissimi, con l'aquilotto. Ma spara i topi, è vero che spara i topi? No, non ci credo. Ma guardi, io spero che ci concentri. Non l'ha visto mai sparare i topi, no? No. Senta, ma lei che è stata molto vicina alla Lega, no? Il fatto che Bossi negli ultimi tempi tiri fuori questo dito medio continuamente, che è una cosa, insomma... molto, per carità, è un gesto istintivo, eccetera. Come lo interpreta? Vabbè, dai, l'hanno fatto anche quelli delle previsioni meteorologiche, lui lo fa su altri tipi di previsione. Da Mykonos, Sabina Negri, che tempo fa a Mykonos? Ci dia questa bastonata. No, no, è bellissima, c'è il vento che t'accarezza e poi... lo spettacolo del cielo che ricordi grandi ideali. L'isola dell'amore, l'isola dell'amore. Vabbè, però vabbè. Vabbè. Insomma, amore si fa per dire, insomma, perché qua sono tutti dell'altra sponda. Ah, lei dice. Quasi tutti. A Mykonos c'è una grande comunità omosessuale, quello si sa, eccetera. Però insomma. Soltanto che io quando ero giovane, ero ragazzina, no, venivo qui perché essendo caruccia. Dicevo, così gli uomini non mi rompono le scatole. Adesso che è andata un po' avanti la cosa, vorrei cambiare isola. Ah, vorrebbe cambiare isola perché vorrebbe che qualche uomo le rompesse le scatole. Magari qualcuno, disimiga tanti, non dico mica tanti, però magari. No, lo dica in disimiga, lo dica in dialetto. Disimiga tanti. Qualcuno, eccetera. Va bene, Pappagallo, noi siamo qui, non possiamo fare niente, però non siamo a Mykonos. No, ma io non voglio, sinceramente sto bene. Stai bene in provincia di Terni, no? Non mi attira, io un po', invece un po' mi attira, ma non per il mare, no, non mi dire. No, per il mare no, sono diventato un po' uomo di montagna. Per la signora Negri. Esatto, bravo. Grazie ad Mykonos, Sabina Grazie Negri. A risentirla presto qui, a risentirla presto qui alla Zanzara. Caro Pappagallo, abbiamo chiuso. Ti ringrazio per questa apparizione improvvisa da Radio Rock alla Zanzara, Radio 24. E mi dispiace che questa sera non c'è stato sangue, però succede, insomma. Tireremo fuori il sangue in un'altra occasione. A presto. 20 a 28, dobbiamo chiudere. A domani 18, la Zanzara estate. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.